ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Grillo parlante se ne fregherà. Al diavolo il predicatore che predica la sua morale, che predica perché vuol bene al pubblico pronto a pagare. Al diavolo il grillo parlante che parla a tutta la gente. Che parla... Sì, è un po' boriosetto, ma vedrà che poi il complicatello diventerà un'altra cosa. Però noi andiamo avanti, vedi, con calma, tranquillità, diamo fiducia. Poi andiamo, vediamo, lunedì vedremo e andremo avanti. Poi se non sarà la legge elettorale sarà qualche altra cosa, però... Se c'è una presa in giro, una presa per il culo e atti di supponenza e atti di dire che noi siamo il complicatello e siamo il grande fratello, allora poi l'opposizione la faremo sul serio. Questo grillo che cerca spazi adesso, cerca spazi di dialogo, non si urla più, non si grida alla vergogna, non si grida all'ebetino, va dall'ambasciatore americano, prima al consolato e poi dall'ambasciatore, cerca un dialogo sulla legge elettorale. Poi dice, i pensionati hanno avuto paura durante la campagna elettorale per i toni che ho usato. Forse anche lei l'ha sbagliata la campagna elettorale. No, non mi sento di aver sbagliato. Posso aver sbagliato qualche tono. La gente può aver avuto paura perché i pensionati, insomma, quelli che potevano votarci non sono andati a votare. L'italiano è anche un po' strano. Lo capisco perché abbiamo 22 milioni di pensionati, 10 non vogliono cambiare il sistema, hanno paura magari di dire... Andiamo, gli sta bene questo status quo di cose e lo mantiene, perché la crisi, milioni di pensionati possono anche galleggiare, low cost, insomma, e se no non si spiegherebbe. Filosofo da baraccone, che è comico senza volerlo, drammatico. Allora, devi sapere, Parenzo, che c'è una signora che si chiama Monia Benini, che lavora per il Movimento 5 Stelle in Europa, sempre parla di 5 Stelle, la quale pensa che ci sia una pianificazione mondiale, una sorta di sterminio segreto per la riduzione della popolazione mondiale. È una delle principali sostenitrici dell'eliminazione delle scie chimiche, quelle degli aerei che inquinerebbero, eccetera, il complotto delle scie chimiche. Ma sono terribili le scie chimiche, E dice anche che si capisce perché in questi giorni si parla tanto di unioni gay. Lo sai perché? Perché Goldman Sachs e JP Morgan sono favorevoli alle unioni. Poi non c'entra, non è che sono favorevoli alle unioni, ci sarà qualche rappresentante all'interno. Goldman Sachs, ma penserà ai soldi, non alle unioni gay. Goldman Sachs e JP Morgan. Goldman Sachs non gliene fotte nulla delle unioni gay, gli interessa dei soldi, del denaro, di grandi speculazioni internazionali, per fortuna. Che predica perché vuol bene al pubblico pronto a pagare, al diavolo il grillo parlante che parla a tutta la gente, che parla e vende. Oh, è morto il grande Faletti. Ricordiamo di Faletti, beh, innanzitutto alla Zanzara. Sì, oltre alla sua presenza alla Zanzara, era il 9 luglio dell'anno scorso, quasi un anno fa. Ricordiamo, la Minetti, no? La Minetti gli diede della testa di cazzo, ti ricordi, no? Sì, della come no? Testa di cazzo comunista, come la signora Minetti. Chissà che oggi non abbia un minimo di rimorso per quelle cose, un minimo. Credo fosse un'intercettazione, però, bisogna dire la verità, era un'intercettazione. Sai Giorgio Faletti, lo scrittore? Giorgio, sì. Testa di cazzo comunista, guarda. Oh cazzo. Aveva casa vuota? Sì, sì, era qua perché Simone lo conosce, un suo amico, allora è venuto a cena, no? Mm-hmm. A un certo punto mi fa, ma tu mi fa cosa fai nella vita? Gli ho detto, ah, io faccio il consigliere regionale, no? Di qua e di là. Mm-hmm. Mi fa, ma per che partito? Gli ho detto, il PDL, no? Minchia, ha iniziato. Ma perché quelli, io, il sistema italiano è un regime, perché di qua, di là, quelle puttane che fanno le campagne elettorali a furia di pompini per finire in Parlamento. Beh, eravamo al top qua, eravamo al top del top assoluto, non c'è niente da ridere perché è morto ovviamente Faletti, però... No, ridevo per le parole per della le parole della, per le parole della, per della le Minetti. Per le parole di Madame al telefono. Ma non, poi, non si può, non, la morte è triste, però ovviamente noi non lo conoscevamo, indirettamente per quello che ha fatto, per quello che disse anche qui alla Zanzara, quando entrò in polemica fortissima con Berlusconi dicendo finché non hai i vermi non è morto. Faletti alla Zanzara. Quest'uomo per certi versi, sotto certi profili, è ammirevole, perché è una persona che combatte come un leone e poi risorge dalle sue ceneri. Anzi, io uso un'espressione, cioè uno di quelli che finché non hanno i vermi non sono morti, ecco. Una volta disse: anch'io sono capace di pagare le ragazze. Io ho sentito Berlusconi dire una cosa in televisione dicendo sono una persona di successo, sono ricco, non sono stupido, e poi modestamente dicono anche che ci so fare. E ragazzi, una che su a dare 2500 euro al mese a delle ragazze per averle lì che ballano, sono capace anch'io, cioè con quelle cifre lì divento Giacomo Casanova con Porfirio Rubirosa sulle spalle. Sempre il grande Faletti. Berlusconi ha inflazionato il mercato. Poi ha anche inflazionato il mercato, diciamo così. Che gente che aveva delle, dicono che avessero delle tariffe abbastanza accessibili per i comuni mortali, lui è arrivato, pran. E poi gli italiani masochisti, insomma, avete capito che tipo era, eh? Non dico che sono gli italiani ad essere cordioni, ma fra parentesi, in mezzo agli italiani in qualche modo mi ci metto anch'io, non è che gli italiani, sto dicendo gli altri, forse coglione è esagerato, forse bisognerebbe usare un termine, un briciolino più filosofico, io userei masochisti, che... Ora, in questi giorni non abbiamo commentato una cosa, caro Parenzo, che non ci è sfuggita perché l'abbiamo commentata io e te in privato quando facciamo i cazzi nostri. Repubblica, che tanto ci ha criticato, tanto ci ha criticato per gli scherzi radiofonici, no? Per lo scherzo a barca, tutta una campagna, Michele Serra, i soloni del moralismo nazionale, i signori Lerner, eccetera, eccetera, non solo Repubblica, ovviamente anche altre persone. Beh, in questi giorni ha pagato il gruppo Repubblica Espresso, ha pagato, credo pochissimo tra l'altro, 1.000 euro, una straordinaria operazione, perché io la chiamo straordinaria operazione, del signor Apuzzo. Signor Apuzzo, voi non lo conoscete, è stato un consigliere comunale verde a Milano, il quale è stato anche un deputato è stato, si è travestito da infermiere ed è entrato nella clinica dove Berlusconi svolge i servizi sociali, ha fatto delle riprese, si è camuffato. Ha fatto secondo me una straordinaria operazione giornalistica, venduta anche poco, perché 1.000 euro non ha preso un cazzo, diciamo la verità. Apuzzo, non hai preso nulla, dovevi strappare più soldi. No, ti ma sei... roba da straccioni, roba da miserabili, veramente da miserabili, una roba miseria, una miseria. 1.000 euro, uno non si sveglia la mattina, quello poverino si è travestito, si è inventato questa roba, ha rischiato che lo scoprissero, no? Allora, In questo caso, cioè, sono entrati in una struttura privata. Non c'è dubbio. In una struttura privata. Non c'è dubbio. Hanno ripreso anche i vecchi che parlavano con Berlusconi, poi hanno oscurato chiaramente le immagini. Malati. Dopodiché quelli hanno comprato questa roba, che è chiaramente un illecito in questo caso, perché non è che c'è il format, anzi sì, c'è un format del travestimento, ma io lo considero una cosa stupenda, meravigliosa, ci hanno fatto benissimo. Però poi non ci devono venire a rompere i coglioni, eh. Non ci devono venire a rompere i coglioni a noi. Cioè, non voglio sentire mai più una parola scritta su questa roba degli scherzi, non voglio mai più sentire una parola. Allora, l'abbiamo pizzicato durante la partita, sta guardando come mezza Italia, forse, noi speriamo di no, ovviamente Francia-Germania, che sono 1-0 per la Germania in questo momento. Mi ha detto che non voleva che gli rompessimo i coglioni. Lo so, testuale. Ma lo so, hai ragione, infatti... Lo so, ma hai ragione. Carlo Freccero è con noi, ciao Carlo! Ciao, ciao ragazzi, siete proprio delle bestie. No? Delle merde, anzi, sì. No, puoi anche dirlo, chiaramente siamo delle merde, sì, no? No, non lo dico, perché lo sai che cioè, vi rispetto troppo, però, però c'è la partita, ragazzi. Ma perché tifi tu? Tifo, beh, sai, un po' la Francia, ma devo dire che... Ah beh, la Francia per le tue, come dire, per i tuoi rapporti. Sì, esattamente, sì, però... tutto, non interessa solo il calcio, quello che il calcio spettacolo, il calcio numero 10 e il calcio. Ma come è... siamo ridotti male noi, caro, da questo punto di vista? Terribile, vergogna. Vabbè, l'Italia fa schifo, dai, poi con Prandelli non capisce nulla, è uno che voleva. E la prima, ho detto, la prima sconfitta di Renzi, Prandelli, sappilo. Beh, questa è una puttanata, però te lo devo dire. Questa l'ho detto, io lo sai, sono franco, questa mi pare una puttanata. Vabbè, okay, vabbè, è vero che è un po' renziano, è vero che lui è un po' renziano. Sarà una puttanata, ma comunque ti faccio anche un attimo un po' di così. È la prima sconfitta. E ce ne sono le prime avvisaglie di qualcosa, sì, che scricchiola, secondo te. Però dai, forza ragazzi, di cosa volete parlare? No, aspetta un attimo, però restiamo su questo fatto dell'Italia. Ma tu chi no, ma lui è un grande esperto di pallone, è appassionato di calcio, per cui. Per cui due minuti sull'Italia li dobbiamo fare. Allora, ma tu chi nomineresti commissario tecnico? Uno solo, Mancini. Ah, Mancini, Mancini. Per forza, è chiaro. Ah, perché tu sei un tifoso del City, che c'entra, Carlo? Certo, no, non c'entra, no, Mancini è l'unico che può fare, anche perché sa di calcio, cioè, tu sai esattamente indovinare subito chi sa giocare a pallone e chi no, sì. È uno che quando fa rilancio le squadre fa fare degli acquisti sempre indovinati, sì. È andato via dalla Turchia perché non ha fatto, non volevano fare gli acquisti, sì, che lui desiderava, è uno che sa anche vedere le partite, sa decidere in qualche modo, sì, che la fatica, cioè è la persona, è perfetto, per è perfetto secondo te, è la persona che proprio finalmente lui ha a disposizione quei 50 giocatori dove poter scegliere il meglio. Però scusami Carlo, c'è un aspetto, dicono che bisogna risparmiare, lui vuole un sacco di soldi. Molto, no, lui è, ti dico anche questo, è risolvibile facilmente, uno stipendio normale da quello che usano adesso, Stadio Review, più lui diritti pubblicitari a lui, perché lui ha chiaramente, come si può sapere, un indotto pubblicitario, sì, bello, elegante, charmante, per cui farebbe 2-3 milioni di pubblicità e sarebbe perfetto. Cioè Prandelli è più cafone di no, è più triste, cafone, più triste, cioè, vero, più triste. Non più è, no, non puoi mica per vendere profumi, sciarpe, cashmere, vestiti eccetera con Prandelli, le può fare con Mancini, parlo. Ma Balotelli, tu, sì, dici, è anche un veicolo pubblicitario, sì, Mancini, no? È anche poi alta, ma è proprio della Italian style, attenzione, sì, quindi sì, perfetta, proprio è la figura perfetta, indossatore. Senti, ma Balotelli lo terresti ancora in nazionale oppure basta con questa? Hai sentito che ha detto Berlusconi che lo sconfitto dei mondiali, la pensi come lui? Ha perso 35 milioni, ma Balotelli guarda, è molto facile, Balotelli, anche qui te lo spiego psicologicamente, perché io ho giocato a pallone eccetera, sì, quando ti senti molto superiore e sbagli un pallone e hai un... fa in crisi perché non è poi così sicuro di se stesso, per cui ha sbagliato quel pallonetto della seconda parte con il e poi è finita. È stato in tilt come Prandelli, cioè è stato una squadra. Ma ha ragione Berlusconi a dire che lui è uno dei principali sconfitti dei mondiali, perché sì, perché lui la vendeva l'Arsenal per 35 milioni, secondo me c'era anche di mezzo il Liverpool comunque, quindi chiaramente era perfetto questa vendita. Il mercato secondo Carlo Freccero, meraviglioso. Torniamo tra un attimo a parlare però di Giovanni Floris e quello che succede nel mondo della comunicazione, della televisione. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Sono tempi duri, non tanto per noi. No, no. Non ce ne frega niente, nulla, zero. Beh, però Vittorio, sono tempi duri anche per te in queste... ne hai combinata un'altra. Ne hai combinata un'altra, hai detto praticamente che Feltri, Bertone, anzi no, Sallusti, Bertone, no, la Santanchè hanno costruito la polpetta avvelenata sul Boffo. E Bisignani, so cazzi adesso, Bertone ha già minacciato Quarela. Anche su questo fra poco chiederò qualcosa a Freccero, però voglio chiedere a Carlo Freccero questa... Floris. Allora, ma non saranno troppi alla 7? Guarda, io credo che la 7 abbia una filosofia editoriale molto semplice, è l'unica, è la rete generalista all news. cioè ha trasformato, sì, sì. Caso unico nel mondo, caso unico, sì, nel mondo, esattamente. Ecco, il problema grosso è che questa news, queste news avranno così tanta forza, così tanto valore, così tanta audience anche il prossimo anno, dove c'è un'Italia completamente dominata dal renzismo, dal Renzistan, Renzistan, io lo chiamo il Renzistan. Esattamente, dove sono al 50% del. E non ci sono elezioni, poi non ci sono. Non ci sono elezioni, a meno che non succeda qualcosa veramente di. Cioè le nuove elezioni. Sì. Nuove elezioni sarà l'opposizione politica. Televisiva. Sì, sarà. No, guarda, no, perché alcuni di questi, come tu sai, non sono completamente anti-renziani, anzi, cioè a parte Santoro. Beh, insomma, pure Santoro non è molto, non è, sì, proprio antirenziano, non è proprio antirenziano. Paragone, Santoro, Formigli, Paragone e Floris. Formigli però è renziano, cioè praticamente. Ma renziano. Beh, sì, non è, sì, vero. Sì, non è, no, cioè, certamente è renziano, ma pure Santoro e Formigli con stili, sì, diversi sono entrambi abbastanza, sì, renziani. Sì, comunque renziani, danno fiducia, danno fiducia. Ecco, ti ripresenti anche che si è sgonfiato veramente il fenomeno Grillo, quindi allora non, sì, c'è opposizione, per cui cioè allora sulla carta è un'ipotesi molto molto. No, ma al di là delle cose della competizione, secondo te che ha fatto bene Floris anzitutto a lasciare la Rai? Beh, sì. Sì. Assolutamente. Ma per i soldi? Beh, o perché è giusto cambiare dopo 12 anni? No, no, assolutamente, cioè lui ha un valore di mercato, la RAI in questo momento si deve risparmiare in modo così un po' stupido, perché poi con tutti non risparmia, eccetera. Doveva essere in qualche modo l'esempio per tutti quanti, è uscito da oppositore, questo qua è molto importante, perché sì, da oppositore di Renzi, sì. Questa cosa è stata studiata anche, credo, comunque è stata un'uscita molto forte, anche così alla 7 in qualche modo ha un valore aggiunto, perché, sì, la 7 è il rifugio peccatorum, sì, per cui con questo anche in qualche modo ha le medaglie giuste per essere appunto dentro questo palinsesto. Esce quasi da vittima, dice. Esce quasi da, ma secondo vittima. Te c'è stato un editto di Renzi che può essere, non dico paragonato come a quell'editto là, però insomma. No, però è chiaramente Renzi è una persona, adesso a parte tutto quanto, parlando due minuti seriamente, sì, è molto cattivo. Ah, dice su che è cattivo. Come è cattivo? Sì, sì, questo è vero, però, secondo me è vero. Su questo ha ragione. Su questo veramente, ma parliamo un attimo. Adesso, un attimo, no, seriamente, seriamente. Cioè, sì. È cattivo. E questa è la sua forza, cioè la sua cattiveria, cioè è una forza proprio cattivo, cioè in questo senso, vedete. Vendicativo, mi ricorda, vendicativo. Sì, mi ricorda veramente molto House of Cards. Populista, io c'ho questo, c'ho scritto anche, eccetera. Lui veramente è. Ma più cattivo di Berlusconi? Assolutamente. Cioè Berlusconi non è cattivo, tra l'altro tu hai. No, Berlusconi è cattivo ma in un senso diverso, cioè lui è cattivo come cioè gli imprenditori delle guadagnare sempre di più, ma certo. Lui è cattivo invece e il suo problema è non è corruttibile né col sesso né coi soldi. Lui vuole il potere per il potere. Questa cosa è, ed è molto lucido su questo fatto. Pensa come ha fatto fuori Letta, a parte il fatto, sì, come, sì, ha fatto fuori tutti quanti, come fa fuori i suoi. Poi questo, cioè devo dirti, cioè infatti Berlusconi lo adora, vorrebbe che fosse suo figlio. Certo, adesso, perché un po' si riconosce, addirittura pensa che sia più cattivo di lui, perché invece lui è perché poi Berlusconi lui è il cattivo come imprenditore, cioè uno che è capace a essere cattivo quando deve conquistare. Io ricordo Italia 1 che in un'estate, sì, in un mese conquistò tutta la pubblicità per Italia 1, alla fine dovete Mondadori Italia cederla, sì, no, Rete, sì, 4, scusa Rete 4 cederla, scusate, ho fatto un errore perché la partita mi distrae. Vabbè, ogni tanto, ah, Mattia, c'è il primo tempo, è finito il primo tempo, che però, quindi un attimo, ho una squadra, quindi vabbè, non c'è problema. Aspetta, chiedo scusa perché non ne faccio mai il tiro così grossolani. Prima, quindi questa cosa di Rete 4 è clamorosa, un'estate, un mese, sì, quindi è cattivo in questo senso, come un imprenditore giusto si muove in questa, ma con questa, da questo punto di vista sta rovinando rapace, ecco, Berlusconi è rapace. Rapace, lui è cattivo. Senti, po', ma da questo punto di vista sta rovinando. Rapace, da questo punto di vista sta rovinando la Rai, secondo te, Renzi? La Rai verrà completamente rifatta attraverso Renzi. Io credo che verrà ridimensionata. Cioè, la Rai chiaramente, sì, è molto servizio pubblico. Cioè, lui d'altra parte è un figlio di Italia 1, è un figlio dei Puffi, è un figlio dei programmi di Finivet quando loro non erano ancora Mediaset. Cioè, è un figlio della TV commerciale. Cioè, vuole una TV servizio pubblico, tradizionale. Cioè, è un Berlusconi con i capelli, insomma. Io allora, mi hanno detto una cosa, ragazzi. Ragazzi, ma che alla questa Leopolda che hanno fatto a voi sapete in Rai, sì, io non c'ero assolutamente, anche perché e allora citato, che t'hanno scritto? Che t'hanno detto? Hanno detto che la persona più citata da queste persone era il maestro Manzi. Il maestro Manzi, perché? Sì, perché era la persona, la citazione più ricorrente negli interventi, sì. 3 minuti era il maestro Manzi, vi rendete conto che follia? Ah, tu dici la follia, perché non è che uno può puntare su questa roba qua. Senti, ma se tu fossi in Bianello, direttore di Rete, cosa faresti? Chi prenderesti? Cancelleresti? Santoro. Ah, Santoro, punteresti su Santoro, che a questo punto troppa gente intorno alla 7. Sì, scompigerei un po' le cose. Io invece prenderei Giuliano Ferraro. Ma cancelleresti il format? Beh, tu non capisci un cazzo. Cancelleresti il format, Ballarò, per esempio, il nome Ballarò. No, io lo terrei per altri motivi, perché perché mi può servire come, cioè io tengo Ballarò, lo tengo come riserva assolutamente, però siccome si farebbe Santoro. Un po' di... Senti, un'altra cosa, ma secondo te c'è un patto segreto che riguarda anche Mediaset? Parlano di salvare con Falonieri Pier Silvio Berlusconi nei processi tra Berlusconi e Renzi, cioè, c'è un patto anche sulla televisione secondo te? No, allora io credo anche qui 2 minuti di serietà, credo che veramente ci sia. Aspetta, però c'è poco tempo. Allora, alle 7:15, durante la partita, ti rompo i coglioni ancora. 2 minuti su questa roba qua. Esiste un patto segreto Renzi-Berlusconi? Lo so, se siamo arrivati fino a qua, bisogna spiegare sta cosa, Carlo. La partita, d'altra parte, è Francia-Germania, ma che cazzo ci frega? Siete proprio delle bestie. No, non lo dico, perché lo sai che vi rispetto troppo, però c'è la partita, ragazzi. Depravatone, mi piace anche per quello, anche per Enzo un po' depravato. Sei ancora in casa, Simo? Venuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba butto spesso il corica, non voglio farti fretta ma troppo iniziale. Marione Adinolfi, spiega la sua filosofia di vita, non so se sia particolarmente interessante, però in realtà non c'è qualcosa di vero in quello che dice Marione Adinolfi, uomo di sinistra, ex del Partito Democratico, diventato difensore della famiglia tradizionale, contro il matrimonio gay, contro le adozioni, dice che siccome gioca a poker e fa i soldi può permettersi di dire il cazzo che vuole, e devo dire che da questo punto di vista ha ragione, perché i soldi, avere il denaro, avere l'autonomia di vivere e campare e di vivere anche bene, è la premessa per dire quello che uno pensa. A giocare a poker io faccio questo, una parte delle cose che faccio nella mia vita, insomma, tra l'altro devo dire è un elemento con cui mi sono conquistato un po' di libertà, sì, per dire quello che mi pare, e sono molto orgoglioso di averlo fatto anche attraverso questo strumento. Cioè, insomma, tu attraverso il poker poi non puoi, non posso fottermi nel cazzo della proprietà di chiunque, no, di essere sotto padrone, faccio come me pare. Il poker, giocare a poker mi dà la libertà di fare quello che me pare, di non stare sotto padrone. Però questa qua rappresenta una filosofia di vita fondamentale, al di là del fatto che lo dica Adinolfi, eccetera eccetera. Ma ha scopertola, che vuol dire? Non no, però è una filosofia. Ci sono persone che si guadagnano la libertà anche senza il denaro, Sì, diciamo che... non siamo ipocriti, però non bisogna essere ipocriti. Io non voglio essere ipocrita, però ti dico che ci sono persone che si sono guadagnate la libertà, sì, ma pur avendo le pezze al culo. Non devi essere ipocrita. In un mondo come quello di oggi, cioè il mondo della, sta parlando Adinolfi del mondo della comunicazione, uno se ha i soldi, se hai una base, può permettersi di essere se stesso e di non fare troppi compromessi. Non, guarda che non dice una stupidaggine, dice una cosa vera, TG3, titoli, poi torniamo con Freccero. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi, la Bundesbank non entri nel dibattito politico italiano, l'Europa è dei cittadini, non dei banchieri, nessuna polemica col governo tedesco. Tiene il patto del Nazareno, appoggiamo convintamente le riforme, dice Berlusconi, ma dentro Forza Italia restano i malumori, 5 Stelle l'accordo non reggerà. Inchiesta Mose, arrestato per corruzione l'ex braccio destro di Tremonti, Marco Milanese, sequestrati i beni per 500.000 euro, la cifra della presunta tangente. Il Pentagono decide di lasciare a terra l'intera flotta dei nuovi caccia F-35 dopo un incidente in Florida. Il PD, l'Italia li comprerà solo se sicuri. A Gerusalemme Est, migliaia di palestinesi ai funerali del ragazzo ucciso all'alba di mercoledì, scontri dopo la cerimonia, il nostro reportage. Il giorno dopo l'assoluzione degli agenti sul caso Ferrulli, parla al TG3 la figlia Domenica, è stata un'altra manganellata, la legge non è uguale per tutti. È morto a 63 anni Giorgio Faletti, attore, cantante e scrittore, gli ultimi saluti al suo pubblico in tournée qualche mese fa, interrotta a causa di un tumore. Allora, voglio dire subito a Freccero una cosa. Non so se hai notato il lecchinaggio totale, caro Freccero, di questi giorni dei giornali dopo il discorso di Renzi in Europa. È una cosa, guarda, su questa frase Telemaco, no? Su questa cosa di Telemaco, questa stronzata di chiacchiere che non servono a nulla. Poi in realtà i problemi sulla flessibilità ci sono con i tedeschi, eccetera, eccetera. C'è stato uno sproloquio pazzesco. Siamo purtroppo, Cruciani, siamo d'accordo. È molto triste. È triste, è molto triste, sì. È molto triste. Sono proprio d'accordissimo. Fotocopie. E anche Davide penso che sia d'accordo, anche Parenzo. Non lo so. No, io dico che c'è un rentiero unico anziché un pensiero. C'è un po' un rentiero unico su questo che c'è. Però poi voglio vedere nel merito quel che dice e che fa, cioè non è che a prescindere è per forza un cornuto, no, un cattivo. Ma no, chi dice che a me ad esempio piace questa roba di Telemaco, è una super cazzola che neanche Tognazzi in Amici miei avrebbe fatto. Sapete perché l'ha fatto, vero? Sì, perché l'ha fatto, dimmi. Ma io ho un'idea, perché siccome Recalcati è l'intellettuale che vende maggiormente in questo momento, sì, e ha fatto un libro che dove c'è il titolo del tema, quindi a qualcuno gli ha suggerito questa cosa di citarlo, che fai bella figura. Ah, e quindi è un sì, è molto semplice. Lui usa delle parole, delle cose che sono sempre di moda. Se l'Europa che si fa il selfie è ancora peggio, cioè una cazzata così, non lo dice nessuno. L'Europa che se l'Europa si facesse il selfie, ma da via il culo. Sì, ma perché poi che cos'è l'Europa? Non è che uno può generalizzare in questo. Ma che cosa dici? Ma cosa dici? Ma cosa dici? Vabbè, ma so, dai, adesso lui, selfie Telemaco, perché ha venduto molto bene il libro di Recalcati, sì, qualcuno ha suggerito, cioè è tutto così. E l'utilizzazione della Boschi come ministro immagine che va ovunque. E che va a tutte le inaugurazioni? Tutte, è sempre presente. Ma è un po' il ruolo della donna, come esce da questa, da come si comporta? Pessimamente. Senti, vabbè, torniamo però alle vicende televisive. Io non ho capito, fossi in questo momento il direttore di Rai 3, no? Di fronte a quello che succede, cioè il tuo uomo principale che si occupa di comunicazione, cioè che fa una trasmissione di successo, anche se l'ultimo anno non è andato granché, diciamo, di Ballarò, però comunque è sempre la trasmissione di punta. Tu dici prendo Santoro, cioè devo puntare a rompere tutto. Io, no? Sì, faccio qui un po' di disordine, chiaramente. Cioè cerco un attimo in qualche modo di a livello almeno mediatico di riporre al centro di questa cosa, non di fare sempre la parte la ormai c'è una soluzione interna? No, Gerardo Greco, so, queste robe. Sì, no, sì, se ne parla perché lui è molto, sì, bravo al mattino, ma se una cosa è brava al mattino perché devi indebolirlo al mattino, lascialo lì, e sì, il primo anno che lo fa, secondo me occorre sempre poi confermare i successi. Sì. Quindi mi sembra. Senti, e dietro poi questo lavora molto, sì, lavoro nel Greco è molto bravo, ma lavora molto per accumulazione. Mi sembra che sia molto bravo però per il mattino, perché non so se la sera può ancora essere ancora maturo, non, sì, so, però lo dico con tono cioè così dubitativo. Ma credo che la cosa di Santoro possa creare un po' di scompiglio, insomma. Sì. Senti, allora dietro eravamo rimasti a questo punto qua. Sì. Dietro il patto del Nazareno, le riforme, che poi a me appena sento la parola riforma del Senato, eccetera, mi viene perché siccome l'hanno cambiata 40 volte, non ne posso più di sentire queste trattative qua. Ecco, dietro questa cosa qui. È meglio eliminarlo il Senato, non avrebbe. Ma sì, meglio eliminarlo che siamo troppo d'accordo. Attenzione. Lo so, ma infatti è tremenda questa cosa. Guarda, sono angosciato. Senti una cosa, ma la cosa, la questione del patto segreto, che c'è? Un patto segreto sulla televisione, sulla giustizia, cosa c'è? Guarda, io credo solamente qui, anche qui, serietà un attimo. Credo che Berlusconi non le voglia più sapere della politica. Ah, dici, eh? Sì. Credo che sia stufato, abbia capito benissimo che Renzi può fare finalmente le cose che lui non è riuscito a fare, la riforma della giustizia, quelle altre cose, eccetera. Non è naturalmente addirittura anche il presidenzialismo, anzi in questo senso Renzi c'è l'accordo, infatti era lavorato su quella cosa lì perché Renzi vuole il presidenzialismo. Bene. Allora, e chiaramente questa cosa vuol dire che si ripone al centro di tutto quanto la sua attività le reti televisive, dove affronteranno in qualche modo, si affronta un panorama molto più Sì, fin complicato, sì. Complicato. Ma Guido, per te non c'è un patto segreto allora dietro questa cosa del... Ma c'è una convenienza, cioè lui è un imprenditore Berlusconi, cioè prima che essere politico. E che gli ha garantito per... Renzi da questo punto di vista? Ma gli ha garantito... Sì, di non fare leggi ostili o cose... Esattamente, su questo punto, cioè quindi secondo me la cosa, oltre a tenere presente, che comunque voglio far notare che per la, lunedì sera, per la prima volta, Pier Silvio ha parlato veramente... Non più come. Eh beh, certo, ha detto. Ma ha parlato come per la prima volta come con lui capo d'azienda, non c'è più, non c'era l'ombra. E poi ha detto che lui punta su Renzi, fa il tifo per Renzi. Esattamente, e infatti io sì dall'ultimo ero convinto che Floris andasse a Mediaset. Sì, io sì. Perché c'è una fase di restyling della Mediaset, attenzione. Io ma 4 milioni non gli avrebbero dati, dai, questo è il punto. No, 4 milioni in 3 anni non gliel'avrebbero dati. Posso dire una cosa? Guarda che 4 milioni secondo me sono dovuti, c'è dentro anche la produzione del programma. Ah, tu dici, in quella la sera dici. Io non ci ho dati gli elementi, ma pensateci un attimo, voi che avete gli elementi per poter. C'è il caschetto che produce il programma, sì, di Floris. E che co-produce con Floris. Sì, sì. Quindi chiaramente i 4 milioni sono abbordabili perché il programma con i suoi costi entra dentro, non queste. Vabbè, problemi. Carlo. Ma quindi secondo me c'è questa, voglio notare ancora, lanciare ancora questa, sì, osservazione, che Pier Silvio ha parlato ufficialmente come capo assoluto, non più come figlio di. Va bene, ciao, grazie. Ciao. Allora, 800 24 00 24, dove andiamo? Andrea Bologna. Ciao Cruzzani. Dimmi. Ascolta, l'altro giorno ci sei andato a puttane là a Lancia. No, non sono andato, non sono andato. Non sono andato, il cazzo non sono andato. Ma ti dico che non sono andato, non sono andato. Ascolta, te lo spiego io perché il tassista voleva portarti lì. Perché? Dimmi. Allora, il tassista, devi sapere che in Germania, ma anche in Austria, sì, i tassisti hanno lo sconto del 50% per l'ingresso nei casini. In che senso? Scusa, non è che, li danno la stecca se portano qualcuno, che c'entra? Esatto, i casini gli danno la stecca, loro hanno lo sconto del 50%. Ma quale sconto del 50%? Sì. Vabbè, allora, vai sul sito di un casino tedesco, vai a vedere il casino più grande della Germania, che è a Berlino, si chiama Artemis. Sì. Tu, sì, lo conosco l'Artemis a Berlino, sì, certo. Ci sei andato? Una volta, sì, anni fa. Io anche di più. Vabbè, ma sei un malato, sei un maniaco sessuale, che sei? Cioè... Che maniaco sessuale? Ma sto scherzando. Figlia, scusami, Un attimo solo, fermo lì. Un abbraccio forte. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Buonasera, signor conduttore, immagino. Le zanzare, conduttore, e il conduttore. Allora, sulla vicenda Boffo, cioè sulla vicenda della velina passata al giornale, secondo Feltri, dal cardinal Bertone, con la complicità di Bisignani e Daniela Santanchè, rivelatasi falsa quella sulla nota omosessualità di Boffo stesso, ex all'epoca direttore di Avvenire, che poi si è dimesso. Scontro tra Alessandro Sallusti ed Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso, a Sky. Sentite. E il caso Noemi Letizia, sollevato da Repubblica, che non hanno avuto nessuna conseguenza giudiziaria perché non esisteva nulla di tutte le trame politiche, sessuali che Repubblica ha ipotizzato, cioè una vera macchina del fango, finita assolutamente nel nulla, perché non c'è nessun procedimento giudiziario né a carico di Noemi Letizia né a carico di direttore, Berlusconi. Quello è giornalismo, quello è giornalismo. Una festa di una minoenne, ma certo quello che è giornalismo. Quello è giornalismo. Ma di che cosa allora, si deve allora giornalismo anche, è giornalismo anche scrivere che il direttore di Avvenire è condannato per molestie sessuali. Non mi sembra che non siano, nessuna che... molestia sessuale, molestia telefonica, no, guardi, è stato condannato per quello. Io ho letto la sentenza, ma è stato condannato ovviamente per molestie sessuali. Ma non è vero, molestia telefonica. Allora, A sfondo sessuale, ma il punto non è quello, cioè la condanna c'era, quella vellina si è dimostrata falsa, ha coinvolto il cardinal Bertone. Va bene, Mario, Padova, anzi no, c'era ancora Andrea da Bologna. Andrea, che c'è su sta storia dei bordelli? Che vuoi dire ancora? Non ho capito. Ascolta, no, i tassisti pagano la metà, loro hanno un giorno libero alla settimana, hai capito? Ma non è vero, dai, su. Sì, allora fai così, la prossima volta che vai ad Artemis o al Manhattan a Francoforte, puoi guardarlo anche. Qual è a Francoforte sito? Quello buono? Il Manhattan, ce n'è uno che è il Manhattan che è in centro a Francoforte. Manhattan, come Manhattan? No, Main, scritto Main. Ah, Main, Main. E poi ce n'è uno che è il migliore di tutta Europa, che si chiama Osi, che è in mezzo alla Sassonia, a 150 km da Francoforte. Ma tu sei un frequentatore di bordelli tedeschi pazzesco. Sì, io ma come mai? Come mai? Perché qua non ci sono, allora io vado in Germania. Vabbè, ho capito, ma ci saranno le donne pure lì, non è che c'è bisogno di andare a puttane per forza in Germania, scusami, Eh sì, ma qui non mi va di andare a puttane qua, che vado in mezzo alla strada che è una rottura di coglione. Là invece vabbè, ma ci sono pure gli annunci, ci sono le ma case. Ma quanto va lei? Io? Ma tutte le volte che vado in Germania, io ci vado almeno una volta ogni due mesi per lavoro, vado là e vado a puttane. Ma sei sposato? No. No, sei single, dunque. Sono libero, sì. Vabbè, ma non era un problema, lo potevi pure dire. Lo potevi pure dire tranquillamente, Sì, ma perché. Ma a me, ma poi a tutti noi italiani piace la figa, lo so che Parenzo non capisce, però... No, ma io anzi posso condivido fino in fondo questo pensiero. Ma chi ha detto che a Parenzo non piace, scusa? Se è un crimine non andare, se è un reato non andare... Adesso non è che per forza, se a uno piace, come dici tu, non la figa... Non ci sono mai andato, cioè non ho mai trovato eccitante questa roba qui, però magari sarò Parenzo, malato io, Parenzo, fai una cosa, prova! Prova, ma non ne ho, è che non ne ho bisogno al momento, magari se vi dovesse capitare di telefono, però ti assicuro che per ora non... Vabbè, ma se uno non sente bisogno, non sente bisogno. Me, tu sei talmente brutto, tu che chiami, che se non paghi non te la dà nessuno, guarda. Possibile pure questo, Andrea, possibile. Dopodiché non è un crimine neanche questo, poverino, perché voglio dire, va benissimo. Cioè, tu hai un'idea abbastanza strana però dei bordelli, Parenzo, cioè secondo te ci vanno quelli brutti perché non riescono a trovare in Italia, ma non è ma così. Guarda, diceva questo signore qui che però mi pare abbia una fervente attività, una costante attività. Costante, ogni volta che va in Germania va in un bordello. Ma io lo rispetto fino in fondo. Scusa, però a questo punto facciamo anche un po' di, come dire, facciamo un'agenda, diamo un po' degli indirizzi, no? Cioè, faccio un libro, una specie di Michelin, di guida Michelin. In Germania, dov'è il top, secondo te, in Germania? Il top è l'Osi. Osi in Sassonia, dunque, puntate, cari amici che siete all'ascolto, non stiamo parlando di massimi sistemi, siamo passati da Carlo Freccero alla lista dei principali bordelli tedeschi. L'Osi in Sassonia, vabbè, andate a vedere Osi su internet. Adesso vado a vederlo io, come si chiama poi Osi? Il Manhattan, dov'è il Manhattan? Quello è a Franco... Osi. Poi c'è il Manhattan a Francoforte. Poi c'è il Manhattan a Francoforte. Sì, poi? C'è l'Artemis a Berlino. Sì. Poi, se fai il brand ad andare su, ce n'è uno anche a Innsbruck, adesso non mi ricordo come si chiama, perché non è il massimo, sono stato una volta, ma è un po' piccolo. Vabbè, quando lei... Bello, ce n'è uno bello a Villach, che si chiama Andiamo. Pure. Ce n'è uno a un castello, sempre vicino a Villach, solo che ha dei prezzi, quello lì 400 euro... No, tu quanto vuoi pagare al massimo, scusa? Dipende cosa fai, però la tariffa base... Cioè a serata quanto spendi? 200 euro? La 200 la spendi, dai. Sì, 200-150 euro. No, ma spiegami un attimo, cosa comprende questo... Ingresso e sesso, ingresso e sesso. No, quanto dipende? Parenzo, tu spendi 60 euro, dai 60 agli 80 euro per entrare. Ok? Sì. Poi dentro mangi, bevi, quel cazzo che ti pare, poi stai dentro anche 20 ore, dall'apertura alla chiusura. Ma non è che uno va lì per mangiare, per bere. Beh, anche dopo un po', a un certo punto mangi. Quando che stai lì, cosa fai? Cioè, scusami. Poi? Ma non lo so, ti chiedo io. Non poi, lo so. Se vuoi chiavare, basta, ti fanno un pompino e una chiavata su 50 euro. Adesso va bene, sì, insomma. Fai... Grazie per aver espresso il tariffario nel dettaglio, così, grazie. Poi, grazie. Però se vuoi fare il culo... No, adesso stiamo veramente esagerando. Andrea, ciao caro, ciao. Vabbè, dove andiamo? Pasquale, Latina, Pasquale. Sì, pronto. Eccoci qua. Buonasera a tutti, buonasera. Dimmi. Sì, volevo intervenire un attimino, agganciandomi un po' agli argomenti trattati ieri. Ecco, appunto, sì. Pensavo agganciandomi all'argomento dell'ascoltatore di adesso, no. No, mi sembrava però, impossibile. Pensando all'argomento dell'ascoltatore di adesso, ho qualcosa da dire, nel senso che il mio pensiero è questo, cioè sbrighiamoci a legalizzare la prostituzione in Italia quanto prima. Ah, vabbè, questo siamo tutti d'accordo. Perché tanto esiste, sta da tutte le parti, sia per strada che in casa, che nei locali, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto, perché far rimanere questo discorso in clandestinità quando invece vale la pena farlo? Vabbè, Pasquale, che voleva dire però? Su, veloce. Sì, no, veloce. In merito a ieri, volevo dire questo. Un po' ce l'ho con te, Cruciani, per questo motivo. No, ma una cosa, io dico una cosa costruttiva, volevo dire una cosa costruttiva. Nel senso che... ma anche se la dici distruttiva è uguale, non è che... No, vabbè, che c'entra. Nel senso che, secondo me, tu non stai facendo, non stai creando il giusto contraddittorio in merito alla questione dei migranti, nel senso che solitamente intervisti sempre persone di cultura che pensano a poverini, a... Ma veramente è il contrario, tutti i leghisti intervistiamo, che stai a dire? Cioè, ma dove l'hai sentita questa cosa? Sei impazzito? Di cultura, non di ma politica. Quali sarebbero le persone di cultura, quelle che tu chiami persone di cultura? Ma di che stai parlando, Pasquale? Ma sei impazzito? Un giornalista, un artista, ma non è vero, non è così. Ma non è così. Vabbè, no, allora, no, che vuoi dire? A me mi interessa quello che vuoi dire tu, Pasquale, non quello... No, certo, allora, quello che voglio dire io è questo. Cioè, l'Italia si sta trasformando in una società di buonisti del cazzo. Ci spiego. Ma non mi pare molto, No, vabbè, Pasquale, che vuol dire? Non ho capito. No, nel senso che tutti quanti, quando vedono i migranti che muoiono, certo, inorridisco, ma tutti inorridiamo, ma ci mancherebbe. Ma cerchiamo di fare qualcosa di più costruttivo. Cioè, pensiamo a fare qualcosa che vabbè, serva. Ho capito. Facciamo la giusta pressione. Sembri uno di quei politici che intervengono, dicono parole e non si capisce assolutamente nulla. Allora, Mario Padova. Eccomi. Dimmi, Mario. Giuseppe? Sì. Ciao Giuseppe, che piacere parlare con te. Mentre a quell'altro vorrei dire come dice il buon Mughini. Eccomi. David? Sì. Perché, caro David, tu fai tanto il perbenista, il moralista. Ma non faccio il perbenista per niente. No, caro David, sei il primo ad accusare, perché tu ieri sera continuavi a dire al povero Giuseppe che povero. È un populista. Povero, perché in quel momento era sopraffatto dal tuo pensiero, perché tu dicevi che è un populista. Per il semplice fatto che Giuseppe, come tanti di noi, esprime la sua idea, che era diversa di noi padovani. Ma infatti penso che padovani o non padovani non me ne frega assolutamente nulla. La mia accusa era tanto di populismo, è quanto di dire una cosa che lui pensa, infatti non è che se la inventa, lo dico. Questa telefonata dimostra che molta gente come te è molto male a saltare il talonato e non rompermi i coglioni. Molta gente come te che telefona è pensiero diffuso, questo, cioè è la mia, che è una posizione assolutamente minoritaria, perché chiaramente purtroppo hai perso a Padova, quindi ma non ho perso, ma non c'entra niente, ha perso dai. La tua testa vuota, io non è che vinco o perdo, ha perso la tua testa vuota. Ha perso la tua testa vuota, no. Purtroppo io non ho né perso né vinto, anche perché a Padova non voto e quindi non ho né perso né vinto, non mi interessa nulla. Ho espresso un parere rispetto alle modalità che questo nuovo sindaco e molti di voi che telefonate ritenete che il problema del mondo siano quattro rom straccioni e quattro mendicanti che sono alla stazione centrale. Se per voi questi sono i problemi, però di è un però il sindaco di Padova, ti segnalo Parenzo, non è che si deve occupare dei problemi del mondo, si deve occupare dell'amministrazione di una città, e l'amministrazione della città significa anche mettere ordine dove ordine non c'è. Non me moleste moschito. Non me moleste. Oh, abbiamo con noi Antonio Verro, consigliere d'amministrazione della RAI. Buonasera, Verro. Eccomi, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Come sta, caro Verro? Quanto tempo, innanzitutto? Quanto tempo? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vabbè. Però devo dire, colpa mia, perché colpa per un sua, paio sì, di volte avevo altri impegni e non sono riuscito a confermare i collegamenti con voi. Allora, il lutto per la perdita di Floris o no? Cioè, ha messo un po' un nastro nero oppure tutti, com'è quel proverbio, che cosa dice quell'adagio? Nessuno? È indispensabile, tutti utili ma nessuno indispensabile. Esatto. Ma guardi, la risposta è ni, nel senso che nel senso che fino a un'ora fa ero molto dispiaciuto per i motivi che adesso illustrerò. Sì. Adesso sono uscite delle dichiarazioni di Floris che francamente gettano, come dire, una luce impropria, o spero impropria, su aspetta, che vediamo che non stiamo seguendo, che ha fatto, che ha detto? Ha detto che è andato via perché non sentiva più la fiducia dell'azienda. Ah sì, vado via da lei perché non sentivo più la loro fiducia, eccola qua. Esatto, sì. e quindi lui dice i progetti io voglio che l'azienda li sposi e non li subisca. Allora, se è così, ma è una scusa questa qua, cioè per non dire che sono andato via per i soldi, secondo te? Ecco, bravo, non lo so. Allora, se non lo so, sì. Io però posso, adesso al di là posso fare una battuta. Come no? Ma se questa vicenda fosse successo sotto il governo Berlusconi, secondo lei cosa sarebbe successo? Sarebbe successo proprio Berlusconi messo al patibolo, l'editto perfetto, bulgaro. Condivido pienamente questa roba qui. Io lo dica lei, se fosse accaduto durante il governo Berlusconi, che sarebbe accaduto? No, dico un casino d'inferno perché Merlo, censure. Merlo, amico mio? Merlo mio? Che c'è? Che c'è? Mio caro Merlo, intanto ciao. Ti dico solo, nel merito oggi hai ragione. Dopodiché mi dispiace che tu non lo devo darti del tutto, che ci conosciamo da troppo tempo, sarebbe ipocrita da parte mia. Dopodiché, secondo me, dici una sciocchezza, anzi una cazzata. Esatto. Perché quando? In realtà, e che ti chiedo scusa se te lo ricordo, c'è un precedente, cioè quando ci fu il governo Berlusconi ci fu una cosa che si chiamò editto bulgaro. Ma quello che c'è, stiamo parlando di un'altra. Posso dire al mio amico e quindi Parenzo, hai ragione oggi nel posso merito. Posso dire al mio amico Parenzo, proprio visto che lo chiamo amico, sì, perché ci conosciamo da troppo tempo, che ci sono gli editti palesi e quelli occulti. Vero? E quelli di cui Vero? Io mi preoccupo di più sono quelli occulti. E questo qua è un editto occulto? Non lo so, onestamente non lo so. Però se lo dici è qualcosa, evidentemente no. Lo pensi. No, non è che lo penso. Onestamente una lampadina mi si accende, certo, quando leggo questa agenzia di allora di lui Floris. Dice Floris dice me ne questo vado per una scelta editoriale, la RAI non sposava le mie idee, ho sempre saputo che lavorare per RAI significa lavorare anche prescindendo dal mercato e ritengo giusto che il servizio pubblico segua logiche diverse, certo. Poi dice di essere stato sempre ottimamente compensato, sono consapevole di aver ricevuto moltissimo, invece è un problema lavorare senza progetti editoriali condivisi. Allora, come commenti questa cosa, cioè secondo te perché se n'è andato? Dimmi la verità. Allora, onestamente ti dico, io non so i fatti, nel senso che so esattamente quello che sapete voi. Se considera l'amministrazione RAI, dovresti saperlo. Io oso pensare che il problema sia di Quattrini, perché parliamoci chiaro, le cifre sono talmente importanti che onestamente la RAI non avrebbe giustamente mai inseguito cifre di almeno le cifre che vengono dette sui giornali. Cioè, no, la RAI non si può permettere di pagare qualcuno 4 milioni di euro per 3 anni? Ma secondo me non deve, non è che non si può permettere, non deve. Proprio assolutamente, è una cosa immorale fare una cosa del genere, non si può e non si deve fare. Detto questo, poi sono dispiaciutissimo perché Floris va via, e dal punto di vista editoriale, professionale, eccetera, perché è un signor professionista, e se mi consentite anche dal punto di vista umano, perché io sono convinto che a oggi il bilancio del dare e avere tra RAI e Floris è assolutamente sbilanciato, cioè? Nel senso che la RAI ha dato enormemente di più di quanto ha ricevuto. Beh, lui dice Floris. Di no, perché lui dice che veniva pagato tanto, ma faceva incassare non so quante milioni di euro all'anno di pubblicità. Ha detto, io sono pagato, una volta disse, sono pagato 500.000 euro, ma la RAI incassa 16 milioni, 14, allora, 41. Questi conti qua sono sempre un po' conti virtuali, perché bisogna avere il quadro completo, le valutazioni industriali. Io vorrei ricordare che Floris era uno sconosciutissimo giornalista dipendente RAI. Sì. A un certo punto la RAI ha deciso di investire, giustamente, di investire su di lui e l'ha scovato e messo a fare questa trasmissione. L'ha aspettato per un paio d'anni, perché i primi 2 anni, io ricordo, faceva il 4-5%. Sì. Dopodiché Floris è esploso. Quando Floris è esploso ha detto, sapete cosa c'è? Non voglio fare più il dipendente, datemi un rapporto di collaborazione a fior di Quattrini. Sì. E la RAI gli ha dato di sì. Gli ha detto di sì. No, non solo, c'era anche una clausola. Perfetto, con quella clausola che io non dico, ma spero che voi diciate. No, la dico io, come lei dovrebbe sapere. La clausola era, non so se poi sia scomparsa dai contratti successivi, la clausola era molto semplice, che se lui poi a un certo punto non voleva più fare il collaboratore, poteva essere, anzi doveva essere riassunto. Bastava che alzasse un dito, sono riassunte. Perfetto, così. Perfetto. Ma esisteva ancora questa cosa? Credo che adesso negli ultimi rinnovi dei contratti gliel'abbiano tolta, però questo non, onestamente non lo so, ma nasce in quel modo lì, il contratto. Quindi, vabbè, lei dice ha dato molto di più la Rai a Floris, insomma, di quanto lui abbia dato alla Rai. Detto questo, dato per scontato che ormai Floris vada via, io onestamente sono per la sua sostituzione, per seguire il metodo Floris di 10 anni fa, di 12 anni fa. Cioè un giovane. Esatto. Cioè, tipo? Dire, a chi dare... ma, allora, posso fare una domanda io a lei? Sì. Ma secondo lei, tra 1500 di, giornalisti Rai, questi sono più o meno i giornalisti, ma non ce n'è uno che è in grado di diventare Floris domani mattina? Lo so, però non è più il tempo di aspettare le persone, il mercato vuole risposte immediate, ma 10 anni fa magari se era possibile, adesso ci sono un sacco di... c'è un sacco di concorrenza, come lei sa, un sacco di talk, cioè contro Floris alla 7, lei chi ci vuole mettere? Un giovane? Non lo so, mi sembra una follia. Io toglierei pure il nome Ballarò, cioè fosse forse per me. Il nome Ballarò è un format nostro, quindi... Ma ho capito, ma uno non può fare Ballarò senza cosa. Farà Ballarò.2, però capisci? Cioè qualcosa bisogna cambiare, allora, anche se nel la titolo. Rai, se la Rai come servizio pubblico insegue questa logica, che da un punto di vista, come dire, di mercato esasperato, capisco quello che lei mi sta dicendo, però la Rai non lo può fare, ragazzi, perché la Rai è la Rai, insomma, detto questo... Cioè lei chi vede bene in questo momento? Allora, Gerardo Greco lo vede bene, per esempio? Chi? Greco. Si fa il nome di Greco, no, che tra l'altro era il mio compagno, era il mio compagno di Floris, classe. Nel senso che l'ho detto prima. Allora, io voglio che sia chiaro un concetto. Che vuol dire meglio la Floris? Trovare uno sconosciuto, scusa. La Rai si è conquistata il diritto e l'autorevolezza a fare informazione da 60 anni di televisione e 90 di Rai. Dunque, e di radio. Il mondo è cambiato, Ho capito che il mondo è cambiato, gli altri però la comprano questo diritto di fare, perché si comprano Floris, adesso si sono comprati Santoro l'altro anno. Ho capito, cioè rischieremo di fare di calare gli ascolti per un anno con il Floris nuovo. Ma lei ha già un'idea? Prego? Lei ha un'idea? No, assolutamente no. Per esempio, Santoro è un'ipotesi assurda. Freccero prima collegato con noi ha detto: io fossi in Rai spariglierei tutto, bisogna rispondere colpo su colpo e prenderei Santoro. Una follia? Allora, io sono premesso che nonostante con Freccero abbia avuto pochi contatti, ho una grandissima stima di Freccero, ma onestamente io sono contro le porte girevoli, cioè a me la gente che va e la gente che viene, cosa che per carità è un sport che si è verificato parecchie volte. No, forse minestre riscaldate parla lei. Ma sì, le minestre riscaldate non mi piacciono, proprio non mi piacciono neanche un po', cioè quando uno va via. Poi da escludere che la Rai possa pagare tanti soldi. No, posso dire, siccome io il consiglio in questo caso ha ben poco da decidere, nel senso che non è una scelta, è una decisione che deve apprendere il consiglio, ma è una cosa gestionale. Onestamente spero tanto di no. Se per caso il direttore generale dovesse orientarsi in questo senso, esprimerò tutto il mio dissenso, perché ripeto, io sono per il metodo, un giovane, una risorsa interna da lanciare. Costa, posso dire, cioè perdiamo gli ascolti, ho capito, però anziché costare 100 costa 10 e insomma facciamo crescere al massimo, quanto dovrebbe essere pagato se lei un conduttore di prima serata che fa ascolti eccetera, perché anche qui è abbastanza bizzarro. Lei dice, ha detto prima, è immorale pagare tutti questi soldi. Ho capito, ma voi li pagate per esempio ad artisti che fanno delle trasmissioni, ne pagate un sacco. Cioè Floris può essere paragonato da questo punto di vista a un artista, al di là del ruolo, cioè a un artista che voi pagate comunque tanti soldi, perché Celentano lo pagate quando fa le trasmissioni. Scusi, mi fa un assist della Madonna quando mi fa questi discorsi, perché adesso io ho fatto queste valutazioni perché stiamo parlando di Floris, ma queste stesse identiche valutazioni io non adesso, ma in epoca non sospette e anche in consiglio di amministrazione le ho fatte anche nei confronti degli artisti, perché qui ragazzi il problema di fondo è questo, cioè al massimo quanto si può pagare tutti, ma non è che possiamo consentire, allora diciamo così, ai personaggi che hanno successo, giornalisti o artisti eccetera eccetera, che in virtù del loro successo e del combinato disposto degli agenti che sono diciamo paragonabili ai procuratori di calcio e quindi molto avidi andare sempre a questa logica del rialzo. Ma sono una rovina per la Rai gli agenti? Caschetto, secondo me sì. Caschetto è stata una rovina? Ma secondo me sì, perché hanno un potere, ma posso dire, non è che sono una rovina loro, è una colpa per loro, perché è la debolezza nostra che rende forte loro, partiamoci chiaro. Cioè Caschetto fa il suo mestiere, fa il suo lavoro e lo fa molto bene. Ma com'è andata secondo lei alla fine? Cioè lui si era messo d'accordo, poi a un certo punto qualcuno ha rilanciato e via? Ripeto, non lo so, perché io so esattamente quello che si legge sui giornali. Ma come? Da quello che leggo e da quello che leggo anche adesso alla luce di quello che dice Floris, mi verrebbe da pensare che la trattativa è stata completamente sbagliata. Da parte di chi? Da parte dell'azienda, chi l'ha fatta non lo so, ma la trattativa si è stata sbagliata, perché voglio dire, allora parliamoci chiaro, se Floris va via per una questione di soldi, punto. Va bene, allora va tutto va bene. Va benissimo. Se va via dicendo che invece... Se va via per altri motivi, mascherati con la linea editoriale... Però lei non ci crede, non ci sposiamo, eccetera. Però lei non ci crede, ha detto. È stata una trattativa sbagliata. Vediamo, anche perché io penso al prossimo consiglio che il direttore generale ci dirà. Vabbè. Qualche cosa di più, sicuramente. Comunque lei ha detto, chiaro, bisogna al limite perdiamo in ascolti, però ci guadagniamo in denaro, pigliamo un interno, un giovane da far crescere, un Floris degli anni, un Floris 2.0. Floris 2.0, e io questo criterio lo attuerei con Floris, con gli artisti famosi, con i cantanti, con i presentatori, eccetera, perché ragazzi... Ma scusi, ma c'è stato un editto bulgaro di Renzi, secondo lei, nei confronti di Floris? Questa domanda, guardi, io spero di no, onestamente. Ma no, spero. Certo, posso dire una cosa. Certo che si sono beccati lì in studio quando Renzi ha dato. È un caso quello che è successo dopo o è solo una trattativa, diciamo, economica? Non mi metta in bocca. E che poi, capisce, le valutazioni politiche in questo momento spettano ad altri, non spettano. No, d'accordo. Lei però fa consiglio all'amministrazione della RAI, diciamo in quota di espressione di centrodestra, diciamo così, di Forza Italia. Ma ci sarà, cioè, questa... Berlusconi è stato accusato di questa cosa. C'è stato un litigio fortissimo tra Renzi e Floris. Allora, su questione... posso dire, mettiamola così. Io credo che il litigio che c'è stato tra i due non ha aiutato, perché magari può darsi che qualcuno dentro l'azienda ha voluto fare il renziano più di Renzi. Ah, mettendo nelle condizioni Floris di lasciare. Ecco, onestamente non lo so, quindi è un... Smentisco il mio principio che non faccio di solito processo alle intenzioni, ma questa potrebbe essere una lettura maliziosa. Allora, Parenzo, tra un attimo, con Antonio Verro, consigliere di amministrazione RAI. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro. Buono, simpatica Zanzara. Padrone dell'intero universo. Siamo qui con Davide Parenzo in collegamento dal mare. E Berro, purtroppo noi siamo qua al siamo sul pezzo a lavorare per Parenzo. Noi siamo a Milano a lavorare e Parenzo sta al mare. Non mi sembra una cosa molto elegante. No, è molto democratica. È quello che ho detto io. Telefono al mare, spaparanzato a Sabaudia, cose incredibili. Guarda, perché per alcuni giorni. Perché lui è un po' snobbino, diciamo. Perché i giorni di lavoro, secondo Parenzo, si fermano a un certo punto al giovedì. Avendo il privilegio di poter lavorare al telefono da contratto, come dire, uso un privilegio che mi è dato dal contratto, non è che rubo a nessuno. Ma per carità, quanto è renziana la RAI adesso? Voglio dire a Verlo, però una cosa, Verlo, perché io condivido, e mi dispiace, non vorrei danneggiarlo, ma condivido parola per parola quello che ha detto Verlo. Ma su che cosa? no, sulla RAI ha ragione, perché in passato... Ma sei sempre contro Verlo, tu oggi sei a favore. Ma io sono contro Verlo a prescindere, che mi sta molto simpatico. Lo conosco da 15 anni, da quando veniva ospite da me ad Iceberg, figurati. Non sono contro Verlo assolutamente. Se dice una cosa che non mi torna, gli che cos'è? Su che cosa sei d'accordo? Ha detto una cosa invece molto aziendalista e molto a difesa della RAI. Cioè? Perché in passato la RAI lo fece questo, Gad Lerner, è stato scoperto da Angelo Guglielmi, Ferrara, Bretelle Rosse, portato in televisione su Rai 3 dal grande Angelo Guglielmi. Vabbè, allora? Santoro. Cioè che bisogna scoprire uno. Ha ragione lui. È cambiata l'epoca, non è più la stessa niente, epoca. Ha ragione lui. Io stesso, per parlare di me, quando feci la mia prima trasmissione in Rai, feci esattamente quanto fece Santoro la prima volta. Floris la prima volta. Cioè, l'ha pagato ovviamente una cacciotta di cavallo, come meritavo. Come che ha pagato una cosa? Stai protestando per quanto fosti pagato la Rai all'epoca? No, ma ero pagato il giusto di quanto valevo. Hai detto una cacciotta di cavallo? Non fammi fare polemica con la Rai. Sono stato pagato il giusto. Una cacciotta di cavallo, vabbè, comunque non è. Ma non mi trascinerai in una cosa stupida. Hai detto una cacciotta di cavallo, tu l'hai detto. Cacciotta di cavallo rispetto ai grandi cascelli, furbo. Vabbè, cioè, sempre cacciotta di cavallo hai detto. Ma qui si parla di... Ma sei stupido proprio tu. Vabbè, io voglio chiedere però a Berlinguer, per esempio, si fa il nome anche di Bianca Berlinguer, una follia secondo lei? Secondo me sì, ma per il motivo che ho detto prima, nel senso che... E Vianello stesso? Anche Vianello. Io sono per il metodo, come dicevo prima, il metodo Floris. Boffo, il metodo però scusa, boffo. Volevo rispondere alla tua domanda di prima, cioè, se la RAI è diventata renziana. Al 101% sì, ma non per iniziativa di Renzi, per servilismo. Come dire, un servilismo sottinteso che c'è nella RAI, per cui c'è, come dire, questo atteggiamento prono nei confronti della, del Presidente del Consiglio. Ma in chi lo vedi? Poi un Presidente del Consiglio che prende il 40%, che è così forte, eccetera. Guardate, voi per capire qual è il rapporto tra la RAI e la politica, quando Renzi, in questo caso, quando il Presidente del Consiglio di turno va porta a porta alla Vespa, sì, andate a vedere la coda di gente che c'è. Ah, c'era una coda pazzesca. Esatto. Allora, a seconda della qualità e della quantità della coda, voi capite come l'atteggiamento dell'azienda. Ma questo è in tutti, ma questo del tutti, c'è gente che si aspetta, fanno la coda per chi si aspetta di più, non so, perché la fanno sta coda? Ma così, per cercare di ingraziarsi Renzi, perché sono convinti di portare a casa dei risultati, di mettersi in mostra, visibilità, di far non lo so, onestamente, c'è tutto il contrario di tutto. Voi di Forza Italia ormai siete, da questo punto di vista, siete fatti fuori, cioè bisogna accontentare degli strapuntini, non so. Noi onestamente siamo, per adesso siamo alla finestra in Rai, nel senso che tutti i dirigenti che facevano riferimento alla nostra area politica, contrariamente a quello che il centrodestra ha fatto, che onestamente pulizia etnica, francamente in modo massiccio non ne ha mai fatto. E invece questi hanno fatto. Per esempio? Guardiamo i direttori di rete e poi diciamo. Cioè c'è stata una pulizia etnica nei confronti del centrodestra, la Rai? Onestamente sì. Vabbè, anche i dati elettorali, però non è che, cioè, insomma, la situazione è quella, eh. È vero. Ma che posso dire una cosa, io allora, siccome, ma i grillini, per esempio, anche i grillini piazzano i loro, no? Che sto facendo anche in consiglio, secondo me il governo non ci deve mettere il naso nella RAI, perché l'azionista della RAI è il Parlamento. E quindi ma il i grillini anche loro mettono una differenza enorme. Ma i grillini mettono bocca o no? I grillini. Ma no, perché il Parlamento vuol dire pluralismo e vuol dire rappresentare più o meno vabbè, tutti. Certo. E il governo è l'esecutivo, che è una cosa completamente diversa. Ma i grillini mettono bocca qualche volta, parlano? Onestamente non mi risulta, non mi risulta. Senta, parla soltanto Fico, ma della sua qualità di presidente della vigilanza. No, volevo capire se anche loro, magari, al contrario di quello che dicono, invece no. Onestamente non mi risulta, quindi. Senta, Verro, però qui c'è una questione prima di lasciarla che è fondamentale. Cioè, alcune aziende, lei ha delle posizioni molto controverse su questo. Alcune aziende addirittura adesso se la pigliano con i ciechi, mandano dei bollettini ai ciechi. C'è questa cosa del canone del canone speciale della RAI, no? Sì. Che lei ha detto che invece che è assolutamente legittimo. Io ho detto che è previsto dalla legge. Vabbè, onestamente, ed è una cosa che da quanto mi risulta a me come consigliere, e sarà 2 anni che non ne parliamo più in consiglio di amministrazione, quindi hanno cambiato procedure, hanno cambiato modalità, io francamente non lo so. Io quello che ho detto, semplicemente ho detto, è che quello. Ma hanno mandato un bollettino all'associazione ipovedenti di Parma. Vabbè, ma è una stupidaggine se è così, cioè le stupidaggini non si fanno e bisogna capire perché le siete fatte. Però il problema di fondo, a me interessa il principio, esiste questo canone speciale e questo canone speciale prevede. Ma va tolto questo canone speciale, che sono stabilite da una circolare del Ministero del 2012, se non ricordo male, e la RAI, immagino, auspico, mi auguro che si sia attenuto a quelle circolari lì e alla legge. No, lei dice che questo canone speciale non riguarda solamente le famiglie, i singoli, eccetera, eccetera. Il canone speciale, secondo la legge, riguarda tutte le aziende o i professionisti che sono in possesso di apparecchi atti a ricevere, quindi col sintonizzatore. Ma uno non può pagare 2 volte, però. Cioè, se uno ha la televisione in ufficio. No, secondo me non deve pagare 2 volte. Posso dire una cosa. Il problema di fondo è che il canone, non c'è ombra di dubbio che così com'è va rivisto, perché c'ha un tasso di evasione che è unico in Europa. Bisogna organizzare le cose in modo tale che il canone venga pagato da tutti e pagato e in che modo, secondo lei, legarlo alla cosa? Ma per esempio la bolletta mi sembra la cosa più semplice, era una cosa che era stata già studiata e c'eravamo arrivati quasi alla conclusione all'epoca del governo dell'ultimo governo Berlusconi, mi ricordo più per quale motivo la cosa saltò, però se tu la fai in bolletta e fai pagare tutto, hai dal recupero dell'evasione hai più efficienza della RAI e soprattutto puoi esentare aiutare le fasce deboli della popolazione. Io sono contrario al canone della RAI, per cui figuriamoci. Vabbè, senta... apriamo un dibattito. Esatto. Berro, però c'è un'ultima cosa che volevo chiedere. Però c'è una cosa, questo fatto del io sono contrario al canone della RAI, diciamolo al che in altri paesi quando fa il contratto di servizio, perché quando fa il contratto di servizio e mi dice che devo avere una sede regionale su ogni regione, con i giornalisti e con tutto, ha capito, questo me lo impone la legge, e io che devo fare? Senta, c'è un dirigente, un produttore di Rai 3 che ha detto delle cose sulla pedofilia, i gay, che la maggior parte dei gay sono anche pedofili, eccetera eccetera, un tale che si chiama Leonardi. Bianello, direttore di Rai 3, se l'ha anche presa con lui su Twitter dicendo che non rappresenta la Rai, che qualcuno vorrebbe fosse cacciato addirittura. Un dirigente della Rai, un dipendente della Rai, si può esprimere tranquillamente in pubblico anche con delle cose molto forti o comunque delle opinioni personali molto forti su... No, è un'opinione che ovviamente io non condivido e francamente non ho letto, non conosco la vicenda, eccetera. Se lo fa a titolo personale, ne risponde a titolo personale tutte le conseguenze. Spero tanto che non l'abbia fatto a nome della... No, ha scritto su Twitter: i pedofili la maggior parte sono gay. Il produttore di Rai 3 è Danilo Leonardi. Questo è successo. Cioè, non è mica lo vuole dire. È una cazzata, cioè, voglio dire, certo che è passivo. Cioè, secondo me, bisogna fare un audit e vedere di pigliare provvedimenti. Ah, secondo lei è passibile di provvedimenti? Beh, secondo me sì, io onestamente non, secondo me ha violato il codice etico. Vedi? Te l'avevo detto anche l'altra volta io, infatti, esattamente così. Ma no, ma come? Ma siete impazziti, ragazzi? Cioè, ma questo qua è un tizio. Tu hai delle regole, se la nostra azienda a un certo punto si stufa e non rappresentiamo più col nostro modo di parlare quello che avranno diritto a cacciarci, no? Cioè, voglio dire, ma questo è un altro discorso, questo è un altro discorso, un discorso editoriale. Se noi diciamo troppe parolacce, a un certo punto, che ne so, cioè si svegliano dopo 3 anni a dire: ma guarda, non ci piacete più, c'entra? Risolviamo le cose, questa cosa la sopprimiamo. Questo signore è un produttore di Rai 3, bizzarra tra l'altro la cosa, e dice: i pedofili la maggior parte sono gay, che è un'opinione forte, io non la condivido ovviamente, ma lui ha tutto il diritto di dirlo. Poi se le associazioni dei gay ma si sentono, tu sei in Rai, devi firmare, ma tu non lo sai, che non lo dici come produttore. Cioè, voglio dire, io ci ho lavorato, ti fanno firmare giustamente un codice etico che anch'io ho firmato quando ho lavorato lì, quindi se dicevo delle cose che andavano in contrasto, tu vuoi fare meno di lavorare, mica nessuno ti obbliga. Tu ad esempio vai via alla Rai, secondo me dopo un minuto non firmi niente, perché col carattere che hai mandi a far culo chiunque e ti cacciano giustamente. Ragazzi, da lì, la notizia di stasera è che io e David Parenzo siamo d'accordo su ma tutto, ma è ovvio stasera. Che è così, ma è il buon senso, però, perché il codice, ma te lo fanno firmare, l'ho firmato anch'io il codice. Ma che, ma tutte queste scartoffie, mamma mia, carte scartoffie, vabbè, è una cosa pazzesca. Comunque è una frase che il servizio pubblico, lei dice, non si può permettere. Cioè... Ma secondo me no, secondo me assolutamente no. Non l'ha detto in una trasmissione su Twitter, ma lei dice la stessa cosa. Ho capito, ma se io mi firmo Antonio Verro, consigliere d'amministrazione della RAI, è chiaro che il confine tra quello che... Beh, su quello non c'è dubbio, se lei dicesse una cosa del genere gli farebbero un tarallo, cioè, così. Si firma Tizio e Caio, direttore di produzione di Rai 3. Sì, di una trasmissione che si chiama Sulla Storia, tra l'altro. Sì. Certo. Vabbè, grazie Antonio Verro. Un grazie. Saluto a tutti, ciao. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Che le odio le zanzare. Ci massacrano. Allora, la signora Monia Benini è una grillina che adesso lavora in Europa come comunicazione per i 5 Stelle ed è fissata con le scie chimiche, con tutti i complotti del mondo. Senti, sentiamola sulle scie chimiche. Sono qui perché è quantomeno un dovere quello di difenderci, quello di proteggerci, e il primo passo per poterlo fare è quello di informare le persone, anche quelli che dicono che parlando di scie tutto sommato si potrebbe essere pure soggetti ad un TSO. TSO, beh, tutto sommato non ha torto, nel senso, tu sei orbo, Renzi è un orbo da questo punto di vista, basterebbe alzare gli occhi al cielo ed accorgerci di ciò che ci stanno facendo respirare, bere e quant'altro. C'è un piano segreto per la riduzione della popolazione mondiale. Ricomincia. Ho voluto tracciare dal punto di vista rigorosamente documentale quella che è stata letteralmente una pianificazione, ripeto, cominciata diversi decenni fa per arrivare alla riduzione della popolazione mondiale a seconda, diciamo, dei realizzatori, che sia nell'ottica di almeno 2/3 o 3/4 di popolazione in meno rispetto all'attuale. Lo sterminio con sterilizzazioni forzate. Questo sterminio viene condotto con diversi strumenti, a partire dalle sterilizzazioni forzate all'inserimento, grazie anche all'opera di una serie di fondazioni, e di nuovo Rockefeller, Bill Gates, di nuovo Aga Khan, che agiscono affinché ci possano essere sterilizzazioni forzate, inoculazione di sostanze che inducono l'infertilità sia maschile che femminile attraverso dei vaccini. Ma cos'è questa storia di Rockefeller, della Aga Khan? Non ho capito bene, scusa. No, deliri, puri deliri, di mettere 3-4 nomi di persone che evocano complotti. Dopodiché questa signorina qui, questa deputata, questa, no, ma non è deputata, questa comunicazione qui del 5, del 5 Stars, non è l'unica, perché ad esempio il 22 febbraio 2011 un signore che si chiama Mimmo Scilipoti, sì, anche lui presentò addirittura un'interrogazione, ce l'ho qui davanti, al governo italiano. Sì, vabbè, lo sappiamo. E cioè, se metti insieme Scilipoti, questa qui, vedi che la compagnia, diciamo, che si occupa di questo non è tra le più autorevoli proprio, ecco, questo voglio dire, insomma. Il vaccino dell'antitetanica contiene ormoni per rendere sterile la popolazione femminile. Il vaccino dell'antitetanica. Certo, certo. Poi ho anche documentato quanto accaduto in diversi paesi del mondo attraverso quello che veniva spacciato come un piano di vaccinazione antitetanica contro il tetano. La cosa assurda è che questo piano di vaccinazione avveniva ed era destinato esclusivamente ad una popolazione femminile compresa in una fascia d'età fra i 15 e i 45 anni. E quindi il comitato Provida, un comitato cattolico in Messico, ha avuto ben più di un sospetto, perché il tetano avrebbe dovuto colpire solo quella specifica fascia di popolazione? Siberia. Vabbè, va, dopo i deliri della signora Monia Benini, 5 Stars. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa. Allora, Rocco, provincia di Treviso, vai, Rocco. Rocco? Sì, dimmi, dai. Allora, beh, ho sentito quello che avete riproposto nell'intervista a Mario Di Nozzi. Che dice, beh, con i soldi io adesso posso dire tutto quello che voglio. Beh, non ci voleva Mario Adinolfi per poter tirar fuori questa massima veramente di basso livello, anche perché... Ma non era una cosa così banale come lei può pensare. Cioè, lui dice, io mi mantengo col poker e dunque il fatto di avere un'autonomia finanziaria mi fa essere un po' più libero. Ma non è una banalità, è una cosa invece assolutamente... No, non è... È verissima, ma a un certo punto uno con i soldi si può comprare tutto. Perché è vero che i soldi non danno la felicità, ma è meglio essere infelici con un Mercedes. Ma non c'entra niente adesso la felicità, l'infelicità, non è quello il punto, è un'altra cosa. Se non l'ha capita, pazienza. Vabbè, è la stessa che... cosa. Sì, io posso essere felice se posso dire. Ma non c'entra niente la felicità. Vabbè, ma è la stessa cosa. Il concetto è che se io ho i soldi, posso fare quello che voglio. E lui è quello che stava dicendo. No. Il punto è che. No? No. Non è così, non ha detto grazie ai soldi mi posso comprare la Jaguar invece di comprarmi la Panda. Non è quella la cosa, è un'altra cosa. Può dire quello che vuole? Sì, può permettersi di dire quello che vuole in libertà senza essere sotto padrone, cioè senza dover scendere a compromessi. Dopodiché poi è chiaro che qualcuno te le deve far dire quelle cose, no? Per cui oltre a dire delle cose le devi dire anche in modo da essere... che quelle cose siano attraenti o che servono nel mercato della comunicazione. Ma vabbè. Infatti le cose che lui dice sono attraenti a prescindere dal, perché infatti noi ne discutiamo. Però magari polemica. Lo può dire perché Perché? Perché per questo che dico che è un messaggio, come dire, banale ma anche sbagliato al contempo. Ma che ma è sbagliato, è giusto, è assolutamente, non c'è nessuno. Ma poi nessun messaggio. Ma perché hai detto un messaggio? Non vuole dare nessun messaggio, ha detto io mi posso permettere. Non è il messaggio che passa, ho sbagliato a dire, dico semplicemente nel merito, mi sembra una stronzata, perché non è così. Vabbè, è una stronzata, è così, è anche così, è anche così. Marione Adinolfi è una persona libera perché comunque fa ha delle tesi provocatorie, adesso ha sposato una tesi che anzi lo eccita, perché lo fa, eccita tutti noi, no? Perché ne stiamo discutendo, addirittura si mette a commentare una foto, cioè si è ricavato anche lì un ruolo, no? Una nicchia di mercato, qualcuno poi lo fa perché ci crede, per carità di Dio, mica che si è venduto, anzi ci crede sicuramente, però si è riguadagnato uno spazio di mercato, sì, non so come dire. E quindi, va bene. Bravo. Mauro da Mantova, Mauro è tornato. Mauro da Mantova, ti giuro non ciao, l'ho chiamato paraculo. Non ciao, l'ho paraculo. Con chi stai parlando? Con te c'è un paraculo, te. Perché? Che è successo? Che ho fatto, Mauro? Te sai cosa fai? Sei classico bamba, no? Che fai il bamba, ma non lo è. Metti il dito in bocca, ascolta in base al freddo da dove arriva, sì, l'aria dove tira e vai dove tira il vento. E in questo caso dove sto andando? Scusa, dimmelo tu. Ascolta, ma tu perché che capisci difendere i gay? Ma guarda che gli italiani ai gay non ce l'ha nessuno con i gay. Tu ti fai carico di difendere i gay, ma per quale motivo? Ma io non sto difendendo i gay. Li difendi a spada tratta, ma guarda che nessuno gli fa niente, cioè sono liberi di fare quello che vogliono in Italia. C'è gente che uccide, fa 3 mesi va fuori, c'è gente che, perché becca Sirkana, il portavoce di Romano Prodi quando nel 2006 era presidente del Consiglio, e gli danno 7 anni di carcere. Quindi questa è l'Italietta. Ma di che stai parlando? Di che stai parlando? Corona. Allora, ah, Corona, tanto? Corona. Cioè, ma che lo sai. Sì, ma non è che andate in galera per Sirkana, Corona è andato in galera per ricatti e cose del genere, No, cioè, caro mio. Ma come no, caro mio, non sai niente! Non sai niente! È stata la vendetta trasversale. Ma quale vendetta di Prodi? Parenzo, di qualcosa tu, che Corona è in carcere per una vendetta di Prodi, dai. Parenzo, digli qualcosa, ti prego. Ma cosa vuoi dirgli, poverino? Cosa devi dirgli? Ma, cioè, ma cosa, non c'è niente da dirgli. Ma quale vendetta di, ma cosa, se gli rispondo, do valore a una follia, alle scie chimiche. Crociani, te ne dico un'altra? Sì. Allora, il lavoro che faceva prima Sirkana, se tu lo sta facendo ancora, Marrazzo, che è quello di andare a pescare i tronci e portarlo in Vaticano. Perché questo è. Ma questo che stai dicendo? Ma che stai dicendo delle follie? Stai dicendo. Allora, ne vuoi sapere un'altra? Dimmi. Un rappresentante del colore, sì, che non ti dico chi. Un rappresentante? Del colore. Che vuol dire? Va a portare i colori per le carrozzerie a Verona. A Verona c'è una carrozzeria che ha contatti con dei trans e delle prostitute. Arrivano le macchine dal Vaticano, arrivano riparate a Verona. Quando tornano con le bisarche da Verona al Vaticano, dentro nel porto oggetti ci sono tutti i numeri degli indirizzi email dei trans che poi vengono recapitate al Vaticano. Loro se li guardano, si contattano tramite internet e poi vengono invitati a fare il weekend con il treno da Vabbè, allora, dico allora, e allora io quando sento, ma io non ho capito bene perché hai chiamato. Ma perché non posso sentire le cazzate? Sto stronzo di Palazzo che mi viene a raccontare o cerca di far capire o credere agli italianotti che ci sono in Italia che Carlano è un giornalista. Carlano è un enorme coglione del caculo, come tanti altri giornalisti. Vabbè, ma che come c'entra adesso Lerner? Il nipote di Zanullato, perché Parenzo, da quello che ho saputo ieri, è il nipote di Zanullato. Sì, Zanullato, non Zanullato. Ma non è il nipote, non c'entra niente, non è il nipote, non c'entra niente. Ho saputo ieri. Ah, non è il nipote. Ma come non è anche Mario. Allora Mario Monti non è il cognato di Benedetti, eh? Però che strano, sua moglie si chiama Silvia Monti, che strano. Ma sei al delirio, Mauro, sei al delirio. Non sono il delirio, perché tu non sei un cazzo. Sei al delirio, sei al delirio. Non sei un cazzo, quello che ti dico io oggi lo so fare da 4 anni, lo sai? Ah, ma che sei, Nostradamus, che sei? No, è che io sono informato, la differenza è quella. No, il fatto sono è informato, che la differenza il fatto è quella. È che purtroppo che tu racconti quello che ti fa. Dimmi. Che che il 4 luglio quello, ci sono stati dei fammi sentire un attimo Parenzo, un attimo. Stai zitto un attimo, dai, su. Il fatto è questo, che il 4 luglio, lo diceva prima anche il telegiornale, è stata oggi una delle punte massime di caldo in tutte le città, in particolare a Mantova. Non mi pare comunque. Il caldo porta al fatto che gente che già è malata, è instabile, lo porta, e quindi il peggioramento, il fatto di dire complotti, che ci sono tre complotti, no? Tre cose, tre puttanate, cose che non esistono, Monti, ma moglie di, mette nomi che trova insieme, che non, che mescolano, che non c'entra niente. Dici il caldo, il sottosegretario Faletti dice, visto che allora ha ucciso Faletti, no, Faletti poverino è morto, il tumore c'aveva, ah no, ma allora hai visto che è stato Ciriboc, che è stato Prodi a uccidere Faletti, è malato. Ma no, Prodi, Faletti non c'entra niente. Ma adesso. No, ma faccio per dire, perché è, ha lo stesso valore delle cose che sto dicendo, c'è niente, sono nomi messi insieme che lui trova, vede, sai come quello dei giornali, no? Vede 3-4 parole, le mette insieme e dice, ah ecco qua, è il caldo, il 4 c'è stata l'impennata massima di caldo oggi, Mantova è Mauro, una città più colpite e quindi sta male. Ha finito di cagare in diretta Parenzo, ha finito di cagare in diretta, vorrei parlare io della mia. Ma che dici, ma devi dire la tua, cosa vuoi dire, su che cosa? Ascoltami bene, invece che rompete i coglioni con dei giornalisti nulli come Gardner, che vale meno di una scorreggia, perché non parlate di Faletti che è morto? Quello almeno un libro, qualcosa di positivo nella vita l'ha fatta, ha fatto ridere gente. Ma cosa c'entra adesso? No, parlate di gente che vale meno di una scorreggia. Vabbè Mauro, ti abbandono, ma stasera. Ma perché non dite piuttosto, non date un po' onore a chi è morto? Faletti è una persona che non... Ma cosa c'entra adesso, Mauro? Ma cosa c'entra? Come cosa c'entra? Ma ascolta, mettete in onda gente che vale meno di una... Ma non mandiamo in onda nessuno, non è andato in onda qui. Roberto da Milano, dai. Sì, buonasera. Dimmi Roberto. Rossani. Niente, io volevo intervenire prima al discorso di prima per quanto riguarda la prostituzione, no? Io pensavo che anche in Italia ci sono questi centri dove la gente ci va a pagamento, però è tutto tollerato. In caso di una liberalizzazione di questa... Ma non c'è nessun centro in Italia, se ci sono sono nascosti, ma non ci sono le case chiuse, non ci sono i bordelli, ci sono nascosti, casomai. Sì, ma non sono nascosti. Ma non ce ne sono nemmeno troppi, dai, su. Non... Sì, ma ci sono, ma tollerati. Vabbè, allora che vuoi dire, Roberto? Non ho capito. Volevo dire che nel momento in cui dovessero liberalizzarli... No, ma non è liberalizzarli, è legalizzarli, è diversa la cosa. Legalizzarli. Allora? Se già la gestione è in mano alla malavita organizzata, andremo a finire che ci ritroveremo come quelli dei videopoker, che a gestire tutto sono sempre una criminalità. Guardi, cioè in Italia non è che uno può non fare le cose perché forse entra la criminalità organizzata. No, cioè, no, non è io quello il dico punto. Che se dobbiamo fare le cose, facciamole bene. Ma no, ma che cosa strana, ma che cosa strana sta dicendo? Che cosa bizzarra, che cosa originale? È chiaro che se uno deve, se deve fare le cose le deve fare bene, no? Ma che ragionamento è? Ma che banalità è? Guardi, non è nessuna banalità, perché anche abbiamo visto quando hanno legalizzato il gioco d'azzardo ne ha beneficiato la criminalità. Adesso andiamo a legalizzare la prostituzione, che è già in mano alla criminalità. Chi ne beneficerà di queste cose? Cioè, a saperlo. Spettacolare, spettacolare. Senti, ma il crocefisso per te che cos'è? È abbastanza pornografico come immagine, eh? C'è uno attaccato, inchiodato su una croce. No, ma è abbastanza incredibile. No, ma scusa, guardalo bene. Adesso non fare il cattolico, pensa di arrivare da un altro mondo. Vedi una persona così, in questa condizione. La pornografia non è solamente sesso, è anche quel gusto lì, insomma. Ma dico, è l'immagine di un sadismo incredibile, per di più davanti al quale tutti ci inginocchiamo, mi sono sempre chiesto. Continuano le polemiche a Padova, dove il sindaco, il neosindaco leghista Bitonci, ha reso obbligatorio, pagato dal comune, il crocifisso in tutti gli edifici pubblici. Bitonci. Noi invece a Padova, nelle scuole dove c'è già, ma anche in tutti gli altri edifici, metteremo, darò indicazione di mettere il crocefisso, che è un simbolo importante, un simbolo anche che riconosce la nostra storia. Ancora toscani, una carognata mettere il crocefisso obbligatorio. No, ma questo dimostra il cervello di questo subumano. Ma scusa, ma come fa uno a obbligare il crocefisso quando sa benissimo che insulterà tutta una serie di cittadini che sono anche loro cittadini italiani? La Costituzione dice senza differenza di razza e religione. E allora, questo qua obbliga il crocefisso, ma perché? È una carognata, così, una carogna proprio, può fare solo una cosa così. E infine l'ex sindaco Zanonato. La questione del crocefisso è una cazzata pazzesca. Questa cosa di imposizione del crocifisso è una cazzata. È una cazzata pazzesca, diciamola così, Flagelzau. È una cazzata pazzesca. Liberiamoci. E su questo siamo. È una cosa violenta. Lo sai, Parenzo, che a Padova Bitonci e l'assessore alla sicurezza Saia sono stati denunciati da due associazioni. Questa secondo me è veramente una minchiata, questa sì che è una minchiata. Sono stati denunciati da due associazioni che si chiamano i Beati Costruttori di Pace. Conosco, Bernardino Bizzotto. Sì, ma non lo so, i Giuristi Democratici. No, ma insomma, hanno i diverse. Beati Costruttori di Pace sono di ma non me ne frega niente adesso di spiegare chi sono. I Beati Costruttori di Pace e altre associazioni che hanno denunciato Bitonci e Saia, l'assessore alla sicurezza. Perché secondo loro istigano al sequestro di persona. In una delle delibere del comune di Padova contro i mendicanti, cosa c'è scritto? Che i vigili urbani praticamente devono portare al comando, identificare fotosegnalazione di questi mendicanti, bisogna fare un verbale e tenerli lì il più a lungo possibile. E allora, tenerli più a lungo possibile, non lo so. Comunque, secondo queste associazioni. Beh, allora hanno ragione. Ma che hanno ragione, ma smettila! Certo. Ma secondo queste associazioni nella delibera c'è scritto che devono trattenerli lì più a lungo possibile per farci cosa? E che è sequestro di persona questo qua. Ma non ho capito, cosa devono fare? I barboni fino a quando non sono mendicanti, più barboni? Mendicanti molesti. Mendicanti, d'accordo, e lo devono tenere lì e a fare che? Ma non lo so, ma non. Ma allora non lo so, se hai letto una cosa, letta così, ha ragione Don Albino Bizzotto e Beati Costruttori di Pace. Ma quando mai? Vabbè. Ma hai capito la logica di questa roba o no? Ma non lo so, ma cioè, non è ma la denuncia, uno fa una battaglia politica, ma scusami, no? Dice una stronzata, ma non la denuncia. Hai letto una delibera in cui si dice che è una follia, se è fatta così sarebbe. Ma non penso che l'abbia fatta. Che i mendicanti, così. Sì, pare di sì, che i mendicanti devono essere portati al comando, procedere ecco. Con il fotosegnalamento, fare sì. Un verbale e tenerli lì il più a lungo possibile. Ha ragione Don Albino Bizzotto, è anzi, un sequestro no, di persone. Devono scrivere, devono perdere la giornata di lavoro, questo è un modo per scoraggiarli, cioè tu li tieni lì, perdono la giornata di lavoro. Mi pare una sciocchezza colossale, ma con tutto quello che avevano da fare i vigili, mi pare una stupidaggine colossale proprio, colossale, cioè tu ti immagini cosa succede lì? Ma non lo so, ma ma secondo te ha una logica questa roba? Qualsiasi cosa, io dico una cosa, qualsiasi cosa venga fatta in una città per renderla più ordinata, più con per aumentare il decoro urbano, va tutto bene. Certo, non è che si possono prendere le persone e sequestrarle senza motivo, appunto, su questo non c'è dubbio, appunto. Però questo non sarà previsto. Ma è con noi il grande Filippo D'Averio, buonasera. Buonasera a voi. Come stai, come caro Filippo? Io sopravvivo, malgrado tutto, anche col tempo umido milanese si sta bene. Lo so, che devi fare. Ma tu che sei un grande critico d'arte, tu che sei, come dire, che conosci bene la cultura di questo paese, ma imporre oggi in un edificio pubblico il crocefisso come vuole fare il sindaco di Padova, è una cagata pazzesca, come dice Zanonato, oppure no? Cioè io sono bimotore. Cioè, in che senso? A voile a vapeur si dice? No, in questo caso no. Sia quello italiano che quello francese. Ah, non sei bisex? No, non sono bisex, no, non sono proprio tradizionalista. Ma da un punto di vista così politico seguo due paesi diversi. In Francia non si reputa che il cattolicesimo sia la religione di Stato, cioè che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e come tali. Se uno va a scuola può anche permettersi il lusso di essere o musulmano o ebreo o ateo o svizzero tedesco, cioè oppure non so, anche brianzolo, capito? E come tale avere delle visioni diverse. La scuola deve essere la scuola quella pubblica, sì. È pubblica e come tale lo Stato è laico. Cioè, sarebbe assurdo fare una discussione sui simboli, tu dici, in una scuola magica, perché non ce ne sono. Perché non allora cosa ci mettiamo? Mettiamo anche una lunetta e poi mettiamo anche cosa mettiamo d'altro, anche per poi ognuno ha il diritto di appartenere alla propria fede e non c'entra niente il crocefisso a scuola negli edifici pubblici. Cioè dovrebbe essere, dovrebbe essere tolto secondo te? Beh, siamo dentro un paese laico, eh. Per cui imporlo, imporlo addirittura è una follia totale. Imporlo è una discriminazione. Ah, addirittura dici tu, una discriminazione. Beh, sì, è contraria alla normativa, a una delle norme fondamentali del nostro, della nostra Costituzione, cioè che regge sui cittadini. Ma perché uguali. Uno lo vuole fare, secondo te? Perché è convinto, per motivi elettorali oppure perché... No, perché si vede che ha peccato molto. Allora, avendo peccato molto, vuole... Sì, io di fronte al bigottismo mi spavento sempre, perché il bigottismo è l'opposto della fede. Cioè, io credo al crocifisso, sì. Non sono d'accordo, non sono d'accordo con la visione di Toscani, siamo molto amici con Oliviero, però su questo non posso essere d'accordo. Cioè, come simbolo pornografico, tu pensi invece? No, è il simbolo della redenzione, per chi è cristiano è il simbolo della redenzione. Cioè, però tu dici metterlo... È il simbolo dell'umanità, cioè porca miseria, tutta l'umanità soffre. Ma è... cioè, Toscani quando dice così è blasfemo o no? Cioè... È anarchico, che è la sua qualità principale, cioè quindi è giusto, cioè il suo ruolo è quello. E quando parla di un sindaco subumano perché prende provvedimenti contro i mendicanti, prende provvedimenti sulla sicurezza, sui barboni, eccetera, eccetera, ha ragione. Sui mendicanti io avevo una posizione leggermente più severa, perché ne abbiamo proprio troppi in Italia, cioè. C'è una cosa strana, non vedo per quale motivo i mendicanti ci siano solo qua e poi quando vado a Monaco di Baviera non ci sono più. Questo pure è vero. Cioè, a Parigi non ne vedo, noi ormai abbiamo una... Io esco di casa e faccio 300 metri, non so più con chi fermarmi. Cioè, applico la norma del profeta Maometto. Cioè? Do uno a una volta al giorno. E poi gli altri dico, guarda, per la profeta più di una volta non posso darlo. Io manco quello. Parenzo, visto che il profeta dice una volta al giorno è giusto, due volte sei un po' ciula. Ecco, io però devo dire la verità, che io manco quella, manco solo una volta. Non avevamo dubbi su questo. No, manco una sola volta. Dunque, il tuo amico D'Averio, però, Parenzo, a sorpresa dice non se ne può più. In Italia ce ne sono troppi. Se vai in una grande città della Germania, a Parigi e soprattutto negli Stati Uniti, non è che c'hai questa questua continua. Lo capisco, lo saluto, rispetto alla sua opinione, non la condivido, ma voglio dirti però una cosa in più, forse sulla quale D'Averio sarà d'accordo. Poi guarda, la parola è esattamente questa, vedrai come si arrabbia Bitonci. Quello che fa Bitonci a Padova è il sequestro di Dio, cioè lui prende Dio, lo sequestra. Ma quello però stai parlando di un'altra cosa adesso. Sua, no, perché mi interessa di più quella cosa lì e ne fa un uso politico. Io fossi un cattolico, cosa che non sono, ma io mi vergognerei di un sindaco che sequestra Dio e lo impone. È una cosa di una, se più ci penso, non l'ho detto l'altra volta, più penso che sia una cosa di una violenza inaudita, ma fossi cattolico sarei il primo a essere indignato, perché io sono ebreo, ho vissuto in alcune classi in cui c'è il crocifisso, non mi ha mai dato nessun tipo di fastidio. Penso da cittadino laico che ci fosse o la bandiera italiana o la foto del capo dello Stato sarebbe la cosa migliore. In America c'è la bandiera, ad esempio. Fine. Ma quello che fa Bitonci è violento, ma la violenza la fa a Dio, la fa ai religiosi cattolici, perché la Lega mette il cappello su Dio, questo stanno facendo, un uso politico di Dio. Davvero, anche secondo lei è così? Sì, penso che sia proprio così, credo che quel modo di usare un'immagine sacra, alla quale una parte della nazione è fedele e crede, ma non tutta la nazione, cioè ci sono tante altre religioni in Italia e ci sono anche delle persone che in quel simbolo non si riconoscono, e la scuola per definizione è laica, perché la scuola è pagata, cioè attenzione, allora facciamo, rovesciamo il ragionamento. Chi insegna è pagato da una cosa che chiamo la spremuta di contribuente, no? Quelle tasse che noi paghiamo. Sì. Non è che quando paghi le tasse, se non sei cattolico, non le paghi. No, certo, allora? Allora, se le pagano tutte... Tutti devono riconoscersi nell'erogazione dei servizi pubblici che comunque questa è la parte di D'Averio francese, non riesco neanche a percepire un altro concetto. Io posso capire che in una scuola cattolica ci sia il crocifisso. Beh, certo, è normale, se uno va dalle suore o va dai preti e c'è il crocifisso, è il loro simbolo, porca miseria, lasciamo il diritto, ma la scuola pubblica è quella pagata dal taxpayer, cioè noi dimentichiamo spesso che il pubblico vuol dire taxpayer money, no? E non è che uno dice, sai, siccome non sei cattolico non paghi le tasse, figurati che fuga ci sarebbe dalla Chiesa. Scusami Filippo, ma perché qualche giorno fa hai detto che gli opinion leader sono la nostra catastrofe? Perché qualche giorno fa hai detto che gli opinion leader, non so in che intervista, hai detto sono la nostra catastrofe? Che vuol dire? Perché dicono qualsiasi cosa. Cioè? Dicono qualsiasi cosa, quello che passa in quel momento per la mente, è quello che diventa in qualche modo una sorta di parola. Perché non c'è poi dibattito sulla questione. L'opinion leader non è soggetto a dibattito. E chi è uno degli opinion leader che tu vedi e che dice è una catastrofe, cioè è il simbolo della catastrofe? No, adesso dirtene uno impreciso mi sembrerebbe esagerato, è una categoria dello spirito, è un vezzo comportamentale in Italia fare l'opinion leader, sono tutti opinion leader. Quando vai al bar all'ora dell'aperitivo ci sono solo 7-8 sì. opinion leader riuniti. Cioè è una patologia della psiche italica. Senti Filippo, ma il tuo amico Goebbels là, come si chiama? Hai visto com'è finito? Si mette a trattare al tavolo con Renzi, ha perso la sua baldanza rivoluzionaria. Goebbels Casaleggio, no, come lo chiamassi? Sì, Casaleggio, sì. Quello dal pelo lungo e dalla dichiarazione tremenda di Gaia, quella cosa lì. Sì. L'avevi chiamato Goebbels una volta, sì, Grillo, sì, Trash, sì, Casaleggio, sì. Goebbels, davano l'insultato. Ancora ti insultano i grillini? Ma forse no, ma forse sì, forse non se ne rendono conto. Però io credo che quando c'è l'odore del potere, guarda, l'odore attrae chiunque, è una cosa come quando apri la scatoletta dei gatti. Sì. Tutti i gatti al mondo danno la stessa posizione alla coda appena apri la scatoletta. Ma in questo caso il potere che c'entra, dici? Adesso che si tratta di discutere, c'è la possibilità di entrare, bisogna cominciare a parlarne. C'è da qualcosa da spartire. Cioè, da quando hanno capito che Renzi non cade, da quando hanno capito che Renzi è stabile, bisogna pure esistere. Questi qua poi sai avranno anche le pressioni interne, perché questi adesso li hanno eletti, adesso sono in Parlamento, prima arrivavano senza cravatta, alcuni di loro pare che non hanno comprato la cravatta, cioè sta cambiando la faccenda. Sì, sì. Senti, ma che è l'ultima cosa di Pompei, che quanta vergogna ti fa quel giornalista che si è introdotto e ha rubato dei reperti abbastanza facilmente? È la catastrofe biblica di Pompei, lì non c'è niente da fare. Io ho sempre detto Pompei andrebbe affidata alle autorità internazionali. Dove? Alle? A un'autorità internazionale, cioè chiediamo all'ONU di gestire Pompei, ai caschi blu. I caschi oppure... blu a Pompei, oppure perché non la diamo al governo tedesco? Governo tedesco. No? Non mitizziamo il governo tedesco. Ma che stai facendo? Stai bevendo il vino? L'acqua? Stavo bevendo un gin tonic, a dire la verità. Gin tonic? Lui deve solo gin tonic. Quanti gin tonic ti fai? Due, tre? Le faccio la sera, ne faccio uno, perché tira su l'umore e poi tiene bene la pressione, si digerisce facilmente. Questo non è uno spot pubblicitario. Se uno si beve gin tonic, si beve gin tonic, c'è poco da fare. Sì. Comunque, affidare Pompei a un'organizzazione internazionale, all'ONU, ai caschi blu. Noi non siamo stati capaci, abbiamo dimostrato pubblicamente. Ormai è recuperabile, dici la cosa. Ormai è andata così, è come dice ragazzi, abbiamo provato da un secolo e mezzo che ci proviamo. Certo. Non ha funzionato. Va bene, grazie, ciao Filippo, presto. Filippo, ciao. No. Allora, Mattia da Bergamo, buonasera Mattia. Sì, buonasera, mi sente? Sì, dica. Ah, ascolti, intervenivo per il discorso di prima su Ballarò. Sì. Allora la scelta che è stata fatta si vedrà in futuro se pagherà o meno, a parte lui che prenderà i suoi bei soldi, quindi ci guadagna di sicuro. Quello che dico io è che le tribune politiche in televisione secondo me non servono a niente. Che c'entra le tribune politiche, scusa, in questo caso Floris mica faceva la tribuna politica. Ma che era la tribuna politica è un'altra cosa. No, intende il talk show. Io faceva un talk show con domande inutili che non hanno nessuna... Domande non inutili, adesso ci sono talk show, vabbè, comunque allora? Sì, però non fanno delle domande complicate, io piuttosto metterei un cameraman che segue ogni politico, che è stato eletto in Parlamento, lo si segue tutto il giorno e voglio vedere se è capace di rubare o prendere tangenti. Ma non è che uno può mettere la telecamera dietro ogni singolo parlamentare, ma di che sta parlando lei? Sarebbe un reality molto più interessante di altri che ha fatto la Rai. Ma quale reality? Danilo da Bari, ma che cazzate. Danilo, dica. Cruciani. Volevo semplicemente intervenire per precisare che c'è un po' di ignoranza dilagante. Il crocifisso è una persona, non è una cosa, la croce è una cosa, quindi se qualcuno è contrario alla croce, che tra l'altro era un modo di punire dei romani, che lo faccia pure. Che qualcuno sia contrario al crocifisso, beh, io direi l'ateismo non ha mai fatto male a nessuno, per cui che non rompano. Bip. No, non ho capito, Danilo, mi spieghi meglio. Dico, il crocifisso è una persona, non è una cosa, mentre la croce è una cosa. Allora bisogna capire contro cosa siete, contro cosa sono quelle persone che ce l'hanno, che se la prendono, se è presente in una classe, se è presente in un corridoio, in una qualsiasi luogo pubblico. Chi se la prende? Se la prende perché? Perché quello rappresenta il tale Signor Gesù Cristo, o se la prende perché vede un oggetto di morte che con cui impartivano morte i romani e anche tante altre popolazioni? Ma nessuno se la piglia con nulla. Qui c'è qualcuno che vuole, al di là delle discussioni su che cos'era, su che cosa non era, qui c'è qualcuno che vuole imporre una cosa. Ma tu ti rendi conto che neanche la Democrazia Cristiana l'aveva mai pensato? Cioè, spendere dei, in alcuni uffici il crocifisso è scomparso per vari motivi. A un certo punto c'è qualcuno che l'ha tolto, eccetera, eccetera. Io non sono per toglierlo, come dice D'Avedio, perché la laicità dello Stato non me ne frega niente se c'è un crocifisso. È il retaggio di alcuni crocifissi, sono anche belli, magari sono degli anni 50, degli anni 60, degli anni 40, eccetera, ma rimetterlo a spese del comune in ogni edificio pubblico, che senso ha? Non riesco a capirlo. Cioè non... Francesco, ancora? Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Buonasera, io volevo intervenire su due punti. Primo, quello delle prostitute e le case chiuse. Allora, partendo dal presupposto che le case chiuse potrebbero assumere un valore sociale per il fatto che comunque, devo chiudere. Utilità comunque sociale, non c'è dubbio. Devo chiudere. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siete proprio delle bestie. Radio 24. La passione si sente.